Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, bentornati, buona domenica, 12 marzo 2017, sono le ore 14:32 primi e 49 secondi in questo momento. Come sempre cominciamo la nostra trasmissione, prima di presentare gli ospiti che si interfacceranno con voi attraverso questi microfoni di Radio 24, con il solito augurio alle persone che ci hanno regalato qualcosa con la voce e non solo. E oggi è una giornata importante perché il 12 marzo del 1922 nasce a Lowell, negli Stati Uniti, un grandissimo scrittore e poeta, Jack Kerouac, pensate, un poeta jazz come lui stesso amava definirsi. Tra le sue opere, I Sotterranei, I Vagabondi del Dharma, Big Sur, ma soprattutto On the Road, Sulla strada, libro divenuto il manifesto del movimento di cui è considerato il padre fondatore, la Beat Generation. I suoi scritti riflettono la volontà di liberarsi dalle soffocanti convenzioni sociali e dare un senso liberatorio alla propria esistenza, un approfondimento della coscienza cercato anche nelle religioni orientali. E noi vogliamo iniziare questa puntata con la canzone di un cantautore che più di ogni altro ha tratto ispirazione dall'ideologia beat. E già in sottofondo, One More Cup of Coffee, è lui, Bob Dylan. Gratitude or love, your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee before I go. One more cup of coffee before I go. To the valley below. Interrompere questo magnifico brano è un po' da cattivi, ma noi dobbiamo andare avanti con la trasmissione, lo lasciamo in sottofondo. Con la scusa, io ringrazio e saluto Alessandro, tornato alla guida tecnica sonora di questa Voice Anatomy. Dall'altra parte del vetro Rachele, nostra capo redattrice, pronta a tutto, e i miei straordinari autori. Alessia Navarro, che oggi sta qui alla mia destra perché si è occupata del primo ospite che sta qui alla mia sinistra, e dall'altra parte del vetro invece Mauro Meconi. Bravo, grazie. Fatto il pubblico io, va bene? Ovviamente ringrazio anche Milano per la messa in onda, insomma è una famiglia grande, larga, quella di Radio 24. E allora al mio fianco c'è un signore che è il più grande biografo del doppiaggio. Grazie. Il più grande, non dico per fatto dell'età, perché sei un giovincello. Tu sei nato il 4 marzo, sì. Da poco, allora. Parlavo un'altra lingua, però sapevo amare. Eccolo là, citazione del grande Lucio Dalla, che anche lui, più o meno, no? È nato lì. No? Siete nati lo stesso giorno. Che però io del 48. E invece il grande Lucio era, avrebbe fatto 70 anni, 71 anni credo, più o meno. Sì, allora più o meno anche. Tu sei del 48, per cui 52 più 17, 69. Del 43, era il 43 Lucio Dalla, come diceva, 4 marzo del 43. Sì. Era più grande di te. Certo. Cantava anche meglio di te. Decisamente. Caro Gerardo, sei, come dicevo prima, uno storico del doppiaggio italiano. Sei un docente di matematica e fisica, autore di numerosi documentari sul mondo dei doppiatori e conosciuto soprattutto per il volume Le voci del tempo perduto, uno straordinario volume. Grazie. Sei incentrato sulla storia del doppiaggio, ovviamente, dal 27 al 73, parlo del Novecento. Altra importante opera tu hai fatto, ma sono complicatissimi, il teatro di Shakespeare e il doppiaggio, che è risultato di una ricerca dedicata al doppiaggio dei film proprio tratti dalle grandi opere del grande Guglielmo. Certo. Mentre sta per prendere la laurea in astronomia, pensate un po', visita gli archivi e gli schedari del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ti rubi tutto. No. E si accorge che in Italia, scusate, il paese dove si doppia di più, anche se si doppia dappertutto, no? Che poi sì, siamo i più bravi, non c'è dubbio. Sicuramente i più bravi siamo noi, esatto. Anzi, siete. No, non siamo noi come nazione, sono nazionalista, guarda. E non esiste alcuna esauriente ricerca sul doppiaggio, decide così di colmare e tu stesso per questa lacuna inizi un percorso di ricerca che poi ti porterà proprio alla realizzazione di quel bellissimo volume delle voci del tempo perduto. Ma soprattutto mi ha permesso di conoscere un centinaio di doppiatori che mi hanno dato veramente tanto dal punto di vista umano, perché oltre ad essere i migliori doppiatori e le migliori voci del cinema italiano, voi siete anche dei personaggi straordinari. Ma che bello, perché non ci chiami tutte le mattine? Apriamo con te. No, no, se tu mi chiami ogni volta tutte io le vengo mattine. No, tutti, ci chiami tutti. E fai, mi invento qualche cosa. Fai uno spam per tutti i telefonini e tu mandi questo messaggio di buongiorno vocale. Siete i migliori, siete i più bravi, ma siete anche intelligenti. Noi entriamo in sala alle 9 di doppiaggio, vedrai che qualcuno gli rodono le corna, come succede al lavoro, invece sì, acquisirà una positività io maggiore. Posso chiedere, posso fare una domanda a Gerardo? Ascoltando la sua formazione, la sua biografia, che è comunque ti sei formato in un ambiente prettamente scientifico, no? Dalla matematica alla fisica. Ecco, come è nata in te invece la passione per questo aspetto più letterario, più umanistico della cultura? È molto molto semplice. Quando vivevo da ragazzo a Pescara, sul corso principale c'erano 5 sale cinematografiche, io abitavo lì, per cui andavo giornalmente al cinema, anche 2 film al giorno. Per cui a un certo punto mi sono accorto di riconoscere le voci pur non sapendo i loro nomi, e quindi piano piano si è sviluppata questa mia passione verso le voci e il doppiaggio. Però davo molto fastidio ai miei compagni che venivano a cinema con certo, me. Certo, perché parlavi durante. Perché rompevo le scatole. Sì, certo, perché davo di gomito. Ah, questo è... Davo di questa è Tina Lattanzi. No, no, questo è Cigoli. No, i nomi non li conoscevo. Ah. Li ho conosciuti 50... Ah, tu dici, questo è quello di John Wayne, quello è quello di Jimmy Stewart. Così, dicevi. Andava così. Beh, perché immagino che comunque fosse molto piccolino quando andavi al cinema a vedere... 8 anni, 10 anni, 12 anni. Però poi a un certo punto, verso i 14, io mi sono ritrovato in sala da solo perché nessuno voleva venire a cinema. Cara Alessia, qui è successa una cosa difficile, che durante l'adolescenza, se vai al cinema da solo, hai capito? C'è gente che va al cinema soltanto per stare in compagnia della propria fidanzata. Lui invece andava da solo. C'avevo 12 anni. Ho capito, lì si comincia. Tu invece lì hai cominciato ad amare le voci. Certo, il mio primo amore sono state le voci. Una voce. Una, qual è stata? Lidia Simoneschi. Ah, Lidia Simoneschi. E quella, poi ne parleremo verso la fine della nostra bella intervista, che Lidia Simoneschi riguarderà proprio il tuo futuro, immediato futuro. Un sì, passato immediato, fra un mese. Fra un mese, però noi siamo qui per parlare di un'altra opera bellissima che io non sospettavo. Cioè, no, che non fosse bellissima l'opera, ma questo studio su Anna Magnani e il doppiaggio. Beh, questo è un libro già uscito adesso fra i due miliardi di libri. No, innanzitutto vorrei dire il formato. Rispetto al teatro di Shakespeare e il doppiaggio, qui ci troviamo di fronte a un formato piccolo, tascabile. Certo. Perché non potevo più continuare con i libri da 3 kg, altrimenti io mi sarei separato da mia moglie. E quindi ho scelto un formato. Hai riconosciuto la moglie, la voce di tua moglie che diceva: questa è l'ultima volta che fai un libro del genere. Beh, sai, 8 anni le voci del tempo perduto, 5 anni Shakespeare, qui Anna Magnani con un paio d'anni. L'hai fatto. Lidia Simoneschi con 1 anno. Poi quando farei il mio in 2 giorni l'hai fatto, insomma questo significa, volevo arrivare a questa, Alessia, capito? Sì, ma questo è molto leggibile ed è anche pratico, tant'è come ti dicevo prima, mio figlio questa mattina dentro la macchina di 2 anni lo teneva in mano, sfogliava e diceva anche Anna. Hai capito? Che bello. Beh, funziona insomma. No, a me mi ha affascinato moltissimo. Che cosa ti ha incuriosito di questo personaggio? Beh, può essere tutto, insomma Anna... Certo, no, volevo mettere in risalto che anche un'icona del cinema, ma neanche si può chiamare icona, lei è Anna Magnani, certamente non scalfibile da nessun punto di vista, però mi sono voluto rendere conto, analizzando tutti i suoi film, se in sala di doppiaggio lei avesse in qualche modo subito la necessità di autodoppiarsi, perché il cinema italiano è un cinema che è stato sempre realizzato non in presa diretta. Quindi, diciamolo, quindi è, tutto il neorealismo, no? Cioè, è tutto doppiato. Tutto doppiato. L'altro anno abbiamo parlato di sì. Roma Città Aperta come un film doppiato. Ho scoperto in questi giorni, per la prossima mia ricerca, non voglio chiamarla opera, che il bambino, il figlio di Anna Magnani, aveva la voce di una bambina, ma io non vi posso dire adesso il nome, no? Ma l'ho intervistata. Vabbè, ma dicelo, dai, non è mica da novella 3000 questo. Faccio svegliamolo questo scoop, dai. Ecco, beh, lo faccio per Alessia. Grazie, sta prendendo il mio po', tutti sta zitta piano piano, hai sentito come sei inserita? Io sono entrata così in sordina. Perché hanno paura i miei autori, che io non faccio le domande giuste e gli ospiti giusti, capito? Allora sei inserita perché voi avete un rapporto personale, va bene, poi ne parleremo di questa cosa in privato durante la pubblicità. Alessia. Sì. La voce del bambino figlio di Anna Magnani che correva dietro a Anna Magnani è di Germana Calderini. Germana Calderini, hai capito? Ma queste sono scoperte. Ma le persone, ecco, vedi. Ciao Pino, un saluto al bravissimo Gerardo Di Cola, grazie alla sua magistrale e fantastica opera, soprattutto sul sito Il Mondo dei Doppiatori. Ho concentrato una passione che non sapevo di avere, il doppiaggio. Oggi studio doppiaggio e recitazione, ecco, mi raccomando, recitazione di base, un percorso che mi sta cambiando la vita. PS, sa premettere che sono un giovincello di 44 anni, ci dice Dino Capuano e noi lo salutiamo, si è giovane. Grazie, si è giovane. Grazie Dino. E poi un'altra persona, Carlo, che ci ringrazia del pezzo più bello tratto da Desire, l'ultimo grande disco di Bob Dylan, che era One More Cup of Coffee, voluto fortemente da Alessia Navarra. Allora, stiamo andando in pubblicità, ma a questo punto tanto rimani con noi ancora un po', abbiamo soltanto iniziato e mi sembrava carino andare in pubblicità con un altro grandissimo ricordo della grande Anna Magnani, di un grande che è Pino Daniele. Ciao grande Pino e ciao grande Anna. Ciao anche a voi. Voi ci siete, rimarrete con noi perché Voice Anatomy è appena cominciata. Allora un attimo di traffico e poi torniamo in studio in diretta. Grazie. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Sanatomi. Bentornati signori miei, 14:47 minuti e 3 una manciata di secondi. Al mio fianco Gerardo Di Cola, il grande biografo del doppiaggio italiano, per cui mondiale. Alla mia destra non un ospite ma un capo progetto insieme a Mauro Becconi, lei Alessia Navarro. Bonsoir. Che ci sta accompagnando in questa intervista al bravissimo Gerardo, che l'ultima fatica è questo libricino ma intenso su Anna Magnani, attrice e doppiatrice. Come ha messo proprio Anna Magnani? Vabbè, perché è una grandissima. Ecco, parliamo ecco, di. Parlare di Anna Magnani e il doppiaggio sembrerebbe una forzatura, vorrei dire proprio una presunzione, che io però non ho caratterialmente, io non sono un presuntuoso. Però accostare Anna Magnani al termine doppiaggio è una provocazione, ecco, chiamiamola. Perché insomma, quindi, oltre ad essere autodoppiarsi, era anche una doppiatrice. Beh, no? E in effetti è la prima, una delle prime doppiatrici, ne parlavo prima con Alessia. Certo, non avevo dubbi che ne parlavi con Alessia, guarda. Ma tu guardate, ma guarda. Così, è morto il Io sono un'allieva affamata nei confronti di Gerardo, perché lui ha un pozzo di conoscenza. Poi siete laureati tutti e due, io ho solo l'ISEF purtroppo, ecco, per cui vi ascolto a malapena. Ma la domanda iniziale è di Alessia. Era perfetta, certo. Ma ci mancherebbe, Gerardo. Anzi, scusate se sto in mezzo a voi due. Ti senti un po' depauperato, Pino? Depauperato non lo usavo dal 78, 79, depauperato. Va bene, speriamo che come attore uno deve essere depauperato senza papere, vuol dire, esatto. No? Cioè che non prendi le papere, certo. Però grazie ai miei studi io ho potuto utilizzare il metodo scientifico per capire un po' il mondo del doppiaggio, che era stato trascurato almeno sì, per 50 anni. Ecco. È vero, è stato trascurato. Io devo dire che l'ho preso sotto braccio da un po' di tempo insieme a te, mi sento un po' fautore di questo percorso. Siamo Caronte, perché siamo un po' più teneri, non siamo traghettatori, sì. Perché è giusto, perché è un mondo meraviglioso fatto di grandi professionisti, sì. Dove io lo dico sempre, non ci sono raccomandati, certo. È incredibile, certo. Cioè non, tu puoi stare con la donna più bella del mondo, non la puoi portare il giorno dopo a doppiare un turno di doppiaggio, certo. O un uomo più, non si può fare, c'è grande preparazione, grande anche, professionalità anche, viva se, Dio. Anche se Andreina Pagnani stava con Alberto Sordi. Beh, capito, ma era Alberto Sordi che era raccomandato. È vero, era lui che è stato un po' aiutato lì. Però, insomma, stiamo parlando di Alberto Sordi, poi l'ultimo. Poi, dici, stava con Mario Persichini, dici chi sarà mai, no? Questo qua, costui. Beh, Alessia, ti prego di continuare questa avventura, questo percorso. Sì, no, una curiosità. Prima abbiamo detto che Anna Magnani è stata una delle prime doppiatrici, no? Volevo sapere chi ha doppiato, chi erano le attrici, allora, che lei doppiava. Il dato certo è Joan Crawford in Pioggia, però sembra che abbia doppiato anche Jean Harlow un anno prima. Quindi anche queste donne facevano, per cui la Magnani riusciva anche a utilizzare una voce diversa da quella provocatoria che aveva graffiata, anche magari un po' romana, un po' così. Ecco, questa è la bravura, grandissima bravura, certo. Come il grande Ferruccio Amendola, insomma, la vociaccia e poi... Eccolo lì, che bello. Mazza, addirittura Joan Crawford e Jean Harlow, sì, due sì. Grandi divi. 1934. Ma pensate, ecco. Che poi invece le attrici in quel periodo, la Loren, la Lollobrigida, erano tutte doppiate. Allora, e non dopo. Almeno 20 anni dopo. Sì, certo. Sofia Loren è stata doppiata per il 30% della sua produzione, Gina Lollobrigida tra il 20 e il 25%. Bellissima questa percentuale. Però Anna Magnani, come giustamente rivelava Gerardo nel suo libro, lei è stata sì una delle prime doppiatrici, però è vero che è stata anche doppiata in alcuni film? Certo, è capitato soltanto 3 volte. La principessa Tarakanova, Finalmente soli e Quartetto pazzo, dove era doppiata da Tina Lattanzi. Ma lei si misurava sul set con Rina Morelli e Gino Cervi e Paolo Stoppa. Però. Ed era una giovane Magnani. E attenzione, noi abbiamo un piccolo contributo. Ma ce l'abbiamo, avete sì, trovato di un contributo? Quartetto pazzo, se non sbaglio, vero? Non sì. C'è neanche esistenza sì, del sì. Film. Io. Beh, molto breve perché era stato molto difficile trovarlo, per però abbiamo una testimonianza. Come Quartetto pazzo c'è in testa, il Quartetto Cedra. Non avevo dubbi. Scusate, l'autocitazione, visto che parlate voi o mi autocito all'interno, va bene. Sentiamo un momento di Quartetto pazzo dove la voce di la grande Magnani e di Tina Lattanzi, sì. La grande antica. Sì, la voce, la voce di Greta Garbo. Sì, prego. In Quartetto pazzo viene snaturata nella sua personalità istintiva e privata della sua voce calda e inconfondibile, doppiata dalla doppiatrice più famosa di quegli anni, Tina Lattanzi. La signora ha suonato? Sì, quando viene il signore che aspetta, fatelo passare immediatamente. Senza neppure annunziarlo? Senza. Benissimo, signora. Va bene, molto rapido, ma è bello questa cosa gracchiante analogica, bello. Avete scelto un pezzo di Giancarlo Governi quando sì. Ha fatto... Sì, Giancarlo è un altro sì. Grande biografo, certo, devo chiamarlo certo. Grande Giancarlo. Governi fa delle... È un altro che può raccontare lavori, le voci e la vita. Sì, non so se sul doppiaggio... No, però insomma, però su altre voci che... importanti, insomma, sì. No? Ha raccontato... Direi che è il numero uno. Sì, storia di un italiano di sordi, è stato fantastico. Certo. Certo che fa strano sentire Anna Magnani, che sì, normalmente ha quella qui, voce così rauca, potente, virile, doppiata in questa maniera. Ma era così elegante. Perché, però la gente era abituata e voleva quell'eleganza. Il doppiaggio poi si è evoluto, e Gerardo lo sa, no? Il cambiamento è stato l'antidivo, quando si è passati al brutto ma bravo, il Dustin Hoffman, l'Al Pacino, certo, dove serviva la voce brutta ma bella, giusta, buttata via. 69. Lì, lì è cambiato proprio, le regole del cinema sono cambiate. Con Mario Maldesi, quando decide di far doppiare Dustin Hoffman, perché il provino in quale film? Non la marciapiede? Qual era? Sì, sì. Era stato vinto da Gino La Monica. Certo, che l'aveva poi fatto nel laureato. Nel laureato, e poi invece è stato scelto Ferruccio Amendola, che fino a quel punto faceva Uomo 2, Dottore 3, Assassino 4, sì, era una voce non apprezzata perché c'erano i grandi cicoli, la voce di John Wayne, questi, e allora dobbiamo andare da quella parte. Non c'era la possibilità di uno che faceva, va tutto bene, ok? Va tutto bene, è tutto finito. Cioè, non c'era questa possibilità, e lì ci fu l'entrata prepotente. Però fortunatamente la Monica non era stato scelto da Mario Maldesi, ma da Giulio Panicali, che fu estromesso da quel film per questa scelta. No, no, per un motivo che preferisco, forse tu lo sai. No, ma fa niente, se non sei esula dal doppiaggio non fa niente. No, non esula dal doppiaggio. Ah, ecco, benissimo. Panicali all'altro, e poi vogliono fare le parti, era tutto quanto così, Robert Mitchum, queste persone che parlavano. Robert Taylor. Tyrone Power, sì, va. Ragazzi, io l'ho bypassata questa generazione, sono entrato un po' dopo, ho sfiorato Peppino Rinaldi, Pino Colizzi, per carità, prima generazione di questi grandi doppiatori con grandi doti, di grande personalità, veramente. Ma sai che guardandoti così emozionato a ricordare queste voci, io mi specchio nel tuo sorriso. Sono contento, io lo amo fortemente, io sento Massimo Turci spesso. Ogni tanto anche per telefono, qui colgo sempre l'occasione per salutare la voce di Anthony Perkins, eccetera, certo, perché siamo figli di tutto questo e dobbiamo sempre ricordarci da dove si parte, dove stiamo andando, perché siamo partiti da là. E non bisogna dimenticare, bisogna portarla questa eredità. E non siete partiti con i film porno. No, cioè io sì, come doppiaggio, il doppiatore di Angelo Maggi. Angelo Maggi in scena, gli facciamo un grande abbraccio che è strepitoso, tutto esaurito tutti i giorni. Va bene, stiamo andando ancora una volta in publicity, una pubblicità un po' più lunga, un po' più corta, così e così. Va bene, fate i gesti, Alessandro, che non voglio ripetere. Restate con noi, restate con Gerardo Nicola, restate con Alessia Navarro e se volete anche un po' con me. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30. Naturalmente qui su Radio 24. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, a Voice Anatomy, Radio 24. Al mio fianco sempre il grandissimo biografo dei grandi doppiatori, delle grandi voci, dei grandi attori, che è Gerardo Nicola. È veramente, c'è una scatola nera tu dentro di te, un giorno la toglieranno e noi sapremo delle verità ancora maggiori su tutto questo. Va bene Gerardo, va bene. E Alessia Navarro che ci sta accompagnando non solo come autrice ma anche come intervistatrice di questo momento, perché non si fidano di me. Va bene. Ma da una certa serenità, perché con te non si va mai dove si va a finire. Esatto, vedi, ha paura. Però abbiamo chiesto proprio poco fa a Gerardo, visto che lui ha in pugno proprio la storia, vorremmo fare proprio una puntata intera monografica sui grandi di una volta, che ogni tanto ci chiedono spessissimo attraverso i nostri sms, che ricordo 349 238 6666, e se volete anche partecipare in diretta 800 24 00 24, e facciamo una bella puntata anche con tutte le citazioni e tutti gli audio possibili e immaginabili dei grandi che non ci sono più ma che hanno accompagnato generazioni intere. Benissimo, anche perché i nostri, mia madre pensava che John Wayne parlasse con quella voce, non è che Jimmy Stewart avesse quella voce, non un'altra. Per cui quando faceva una pubblicità, Gualtiero De Angelis diceva: senti un po', Kraft fa Gary Grant, invece era Gualtiero De Angelis, cose buone dal mondo, certo, che era pazzesco. Continuiamo questa galoppata attraverso l'avventura di Anna Magnani e il doppiaggio. Abbiamo detto poco fa, ha detto Gerardo, che la Magnani è stata anche una brava doppiatrice, nonostante tutto. Sì, è stata doppiata all'inizio, ma ha cominciato anche con dei film con John Crawford e John Harlow, dove è stata doppiata da Anna Magnani. Certo. E poi? Sì, una curiosità che ho. Anna Magnani, che nell'immaginario collettivo, sia dal punto di vista umano che da un punto di vista artistico, lei è stata sempre caratterizzata da questa forte spontaneità, da questa istintività. Lei che era così donna e sensuale, ma anche così virile, no? A metà tra l'essere donna e l'essere uomo, proprio per la sua forza e la sua temperanza. Anna Magnani, quando si autodoppiava, mi viene in mente, non so, Pelle di Serpente o La Rosa Tatuata. Dove vinse l'Oscar. Esatto. Così, dove Tennessee Williams ha detto, lo scrivo, cioè Tennessee Williams ha detto, lo scrivo per te. Certo. Dai. Sì. Cioè, ragazzi, Tennessee Williams non è uno qualsiasi, eh? Direi di no. Ti ha scritto su di lei e lei ha vinto l'Oscar. Cioè, vabbè, certo. Non ci posso pensare a questa cosa meravigliosa. Ecco, mi domandavo, quando si autodoppiava, manteneva la sua spontaneità e istintività o magari la perdeva? Era un deterrente per lei? Decisamente sì. Non c'era altra possibilità, ma era penalizzata. La sua recitazione veniva appannata dal fatto di riproporre quelle battute senza l'aiuto della gestualità, che per lei era fondamentale. Ricordo per esempio La Rosa Tatuata del 1955, lei si è misurata sul set con Burt Lancaster e all'eggio con Emilio Cigoli. John Wayne. Non era una cosa da poco. Così per l'anno successivo, per Selvaggio il Vento, Anthony Keane e Anthony Franciosa erano doppiati da Arnoldo Foà e Pino Locchi. E quindi una cosuccia così. E in Pelle di Serpente, nel 60, Marlon Brando sul set e Giuseppe Rinaldi... La voce del grande Marlon Brando. Marlon Brando, signori, sentitevi Marlon Brando all'originale e poi ditemi se Peppino Rinaldi non gli ha fatto una cortesia a farlo diventare un sex symbol. Fisicamente non si discute Marlon Brando, è una bellezza assoluta. È uscito un documentario dove lui si racconta, perché ve lo voglio dire, sono state trovate nella sua casa, messa all'asta in cantina, centinaia di ore con la voce di Marlon Brando che racconta a se stesso dall'inizio fino alla sua morte, con addirittura delle riprese video che si è fatto fare in 3D con un laser, per cui c'è il suo profilo che appare e parla. Per cui questo documentario è Marlon che parla di se stesso, con dei pezzi ovviamente aiutato dai pezzi visivi, dove fa i primi provini, eccetera. E il primo provino si presentò e ci fu quel primo piano già sfrontato con il casting che dice davanti, e lui si ferma con una faccia e poi di profilo fa uno sbuffo e dice vabbè, me metto pure di profilo. Beh, io già l'avrei preso pure a casa, cioè ma sarei sposato. Di una bellezza assoluta, ma poi fa sentire le prime volte che recitava sul palco e anche dopo, un tram che si chiama Desiderio, pazzesco, cioè lui sudato con qua la canottiera strappata, veramente ci farei un figlio io, se me ci metti a me con la canottiera strappata mi ricoverano qui vicino. E lui però con quella voce, I know you can't have così. Sentitela, se avete i DVD, mettete il doppio audio, sentite Peppino Rinaldi che profondità che gli dà. Non però... dico Gino Cervi del Giulio Cesare. Sai, io credo che avrebbe dovuto doppiare anche una pièce teatrale che vidi un po' di tempo fa di un tram chiamato Desiderio in Italia. Sì, lasciamo stare, dai, però andiamo a litigare qui. Due precisazioni, sì, per favore. Hai nominato un primo film dove non era Peppino a doppiarlo, Stefano Sibaldi. Stefano Sibaldi. E invece in Giulio Cesare e Emilio Cigoli era. Ma come faccio davanti a un vivente che si ricorda più di me? Che adesso sono sopraggiunti i due doppiatori ospiti che seguiranno Gerardo Ricola, che sono Davide ed Elena Perino, che non è un duo musicale, ma sono fratello e sorella, visto che sono due grandi doppiatori. Poi lui è il mio nipoti di Gianfranco Bellini. La voce Hal di 2001 di Stano Spazio, e non solo, insomma, ha fatto tutti i cattivi un po' acidi Bellini, Se no, no. Aveva una voce delicata. Sì, lo so, ma quando doppiavi a certi cattivi ci stava bene quella voce tagliente, non era Pensa male. Pensa che Gianfranco è stato il primo doppiatore che è venuto a Pescara nel 1997 per parlare di doppiaggio, di lui e ricostruire per il mio libro. È lui che mi ha raccontato la prima scissione in sede della CDC, perché alcuni doppiatori non venivano gratificati e addirittura ad uno gli hanno tolto la sua unica, il suo unico protagonista. E chi era? Humphrey Bogart, Bruno Persa. Cioè lui è veramente ogni tanto diventa è come la Treccani del doppiaggio, ogni tanto Eva 3000. E lui alterna queste cose pazzesche, cioè quello gli hanno tolto Humphrey Bogart, che poi l'ha rifatto Paolo Ferrari più avanti, insomma, nel ridoppiaggio. Certo. E quindi decisero di andar via dalla CDC Persa con Mario Pisu, Olinto Cristina, e Gianfranco, per la grande amicizia che aveva con Bruno, con Bruno Persa, scelse di andare via a mal partito, perché lui non voleva. Questo fu un divorzio tipo Richard Burton e Elizabeth Taylor, Taylor, insomma, nessuno tanto, conosce queste storie. Tanto che poi Gianfranco fu richiamato, certo. Ci fu un incontro incredibile che lui mi ha raccontato al Pincio, quando c'erano due emissari di Cigoli. Due emissari di Cicoli, poi la voce del John Wayne, ti aspetti due cari Portella con andarono, una corte. Andarono a chiedere a Gianfranco di rientrare e Gianfranco disse, ma questo me l'ha raccontato lui, e disse no, io torno se riprendete anche Bruno Persa. Vedi, queste storie sembrano, per chi sente, sono nomi magari di fantasia, sembra, però il dietro le quinte di certe vite, di certi momenti, sono affascinanti. Non è un caso, anche su Rai 1 hanno fatto il dietro le quinte di Studio 1 ed è andato molto bene. Meglio che magari raccontare la storia di Mina o di Lelio Luttazzi direttamente, si è raccontato la storia della sarta piuttosto che dell'autore o del cameraman, con davanti però questo sfondo. Ecco, sarebbe bellissimo, e non dare a nessuno questa esclusiva, raccontare una bella fiction. Guarda, dove si racconteranno queste storie meravigliose. Dammi il contratto, te lo fermiamo subito. Magari, guarda, purtroppo non sono mamma Rai ancora, però sarebbe affascinante raccontare il dietro le quinte e la nascita. Questo lo do a Alessio. A tutta Alessio, questo ne parliamo alla fine, nell'altro blocco. Adesso ci arriviamo. Scusate se vi ho interrotto su questa cosa, ma è bello che la gente faccia questi percorsi, perché adesso, a prescindere se è stato prima Peppino Rinaldi o no, eccetera, ma la voce Marlon Brando è insentibile, secondo sì, me. Sì, sono d'accordo. Bello come il sole, non gli si può dire niente, certo. Però no. Mentre Paul Newman è già più affascinante. Tu stai facendo una domanda però sulla Magnani. Abbiamo un contributo dove lei si ridoppia, no? Sì, abbiamo sia Pelle di Serpente che La Rosa Tatuata. Ecco, allora ascoltate attentamente quando lei cerca di tenere il confronto e ci riesce in qualche modo, cosa che non riusciva a Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Certo. Infatti erano doppiate. Loro erano penalizzate quando si confrontavano con i mostri sacri. Vabbè, te faccio doppia pure a te, Gerante. Grazie. Che sentiamo prima? Pelle di Serpente? La Rosa Tatuata. La Rosa Tatuata, che vogliamo fare? Gerardo sta mandando i baci a Elena Perino. Mettiamo prima La Pelle di Serpente o La Rosa Tatuata? Tutte e due. Quello che volete. Vabbè, tutte e due. Prima Pelle di Serpente, vai. Vai a metterti la giacca bianca adesso. Val, quella non è la giacca bianca. Non lo è, infatti. Lady, me ne vado. Cosa hai detto? Sì. Devo prendere la corriera che parte alle 9:15. Devo andare oltre i confini della contea. No. Sì. Mi sono cacciato in un brutto pasticcio qui. No. No, tu non mi imbrogli, amico. Ah? Lei ti sta aspettando fuori. No. Sì, nella sua macchina. No, sì. No, Lady, voglio che tu capisca. Cosa? Io mi trovo in una situazione che è senza possibilità d'uscita in un paese come questo. Mi hanno fatto delle gravi minacce se resto qui un'altra notte. E non hai pensato a me? Lasciami andare, Val. Lasciami andare, sai. Lady, ascolta. Avrei potuto scappare da qui prima. Ma volevo dirti una cosa che non ho detto mai a nessuno. A nessuno. Ti amo. No, lasciami ti amo andare. Veramente, Lady. No, non parlare d'amore. Non a me, ti prego. È facile dire amore, amore, amore. Con una ricca macchina non tua che ti sta aspettando fuori dalla porta. Ma lasciami andare, sai. Ehi, è aperto? No, non ancora. Più tardi, più tardi. Val, muoviamoci. Adesso devi ascoltarmi. Tu non hai capito niente di quello che ti ho detto. No, e non mi importa. Ma un giorno sì. No. La mia vita è in pericolo qui, sai cosa significa? Anche la mia vita. Io ti aspetterò, ci incontreremo. E appena saremo non fuori dallo stato... Non te credo! Per carità, bravissima, sì, bravissima. Non è la Magnani che conosciamo noi, ma la Magnani... Però... Sì, ma la Magnani di film internazionali. Non è la Magnani del film italiano dove serviva una spontaneità, una... Una scena di gelosia come questa, dal vero, in presa diretta, Anna Magnani avrebbe avuto un impeto diverso. Sì, ma lo doveva fare con un italiano, cioè se la faceva in inglese perdeva quella spontaneità che aveva. Scusate, dai. Ma capita anche sui film italiani, perché anche in quelli si doveva autodoppiare. Sì, come Alberto Sordi. La Anna Magnani vera l'hanno vista chi è andato a sentirla in teatro. In cinema abbiamo visto, sentito un'Anna Magnani alterata dal doppiaggio. Non c'è niente da fare, questa è la mia opinione e vedo che adesso incomincio a vedere nelle vostre espressioni dei dubbi. Sì, sì, era un qualcuno sottotono, fa i complimenti, c'è una persona che io leggo sempre tutto, Mario, che dice non è vero, spontaneità per niente, Magnani tutta costruita, nella realtà era classica. Mai sboccata, due punti, informatevi, cadete tutti nella banalità. Cioè sboccata, no? Non abbiamo mai detto che ne era sboccata. No. Secondo me nella vita era bella, una bella forte. Aldo Fabrizi sì. Ne sa qualcosa, insomma, degli scontri con Anna Magnani. Sì. Non riesco a capire se tu dici che noi diciamo che era spontanea, ma non è vero. Io credo che la spontaneità e la semplicità magari nella vita non era così e non era una donna semplice assolutamente, era un carattere certo. D'acciaio ma per quanto riguarda quello che noi vediamo e abbiamo visto della Magnani c'è grande credibilità, per cui semplicità, che poi la semplicità è la cosa più difficile da raccontare, signori, cioè non è quella semplicità di quella corsa incredibile del film Rossellini, Roma città aperta, lì poi è caduta veramente. E l'hanno lasciata, sì. Perché c'è grande veemenza e verità, non parliamo di Strasberg, non parliamo del metodo, non parliamo di Stanislavski, parliamo di una grande attrice che ha reso tutto, fra virgolette, semplice, ma semplice per renderlo semplice deve essere costruito, per cui insomma certo. È una contraddizione in termini, per cui non so Mario dove ti stai collocando, se mi riscrivi volentieri, perché non chiami, quando è così e siete così convinti, noi diamo voce a tutti, si chiama Voice Anatomy, è bello poi il contrasto chiaro. Che fa crescere sempre, che uno può avere un'idea, conoscere qualcosa in più, va bene, ma intanto ti ringrazio, poi un altro amico romano che ci saluta, eccetera, eccetera, vabbè, ma andiamo avanti, siamo arrivati anche alla fine del terzo blocco, va bene, restate con noi, abbiamo ancora un quarto d'ora con Gerardo Ricolo e poi il mio Frodo, perché Perino è stato mio Frodo per tre film, la sorella no, perché non c'era nel Signore degli Anelli, ma dall'altra parte c'ho il mio Frodo che vi sta aspettando. A tra poco, voi sanatomi. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta... Voice Anatomy. Quando si cominciano questi percorsi con Gerardo Ricolo uno si accorge che anche un'ora è niente, anche perché tu gli dedichi degli anni. Grazie. A queste cose. Quest'ultimo tuo lavoro, intanto tutti i tuoi lavori dove si possono trovare? Si trovano online? Si trovano anche in libreria? No, è sempre complicato perché... Ma tu ci hai messo 8 anni per fare Le voci del tempo perduto. Ma a me non interessa. Sì, lo so, tu sei ricco di famiglia, lo so. No, però no, sono scherzo, dai, Gerardo. Pensionato della scuola. Sono poco interessato a pubblicizzare, a commercializzare. Ecco, però magari metti su un sito e uno se lo può scaricare perché è affacciato. Cioè, magari lo fai gratis. Chi è interessato riesce a trovarli, i miei... Le voci del tempo perduto, no, il teatro non si trova più, ma Shakespeare, quanti... Teatro di Shakespeare e il doppiaggio. Sicuramente sì. E questo della Magnani? Anna Magnani basta telefonare alla casa editrice, alla casa magari. Qual è? Editrice 0871. Ah, c'è il numero di telefono, stai sì, dando? Sì, sì. 0871. Ah, no, scusa, scusa, no, no, no. No, quella è un'altra. Ce l'ha nifa. Allora, vabbè, do il mio riferimento. Gerardo di Cora. Gerdic. Gerdic. Ah, con la C, non con la K. Con la C. Gerdic. Chiocciola. Libero.it. Libero.it, vabbè. Ecco. Va bene, allora c'è Gerardic che sembra un po' Dorellic. No, Gerdic, senza Gerardic. Gerdic. Gerdic. Ah, Gerdic. Gerdic. È Gerardo di Cola, la contrazione. Sì, insomma. Sì, sì. Gerdic, va bene. Cara Alessia, visto che mi stai accompagnando, vogliamo sentirci anche il contributo del film La Rosa Tatuata, che con poi cui vinse l'Oscar. Con cui vinse l'Oscar. Che fu... E c'è Emilio Cigoli. Emilio Cigoli che faceva Bart Lancaster. E lei che doppiava se stessa. Per cui sì, vediamo come certo regge il raffronto, ma comincia anche proprio con la premiazione. Ascoltate un po'. The winner is Anna Magnani in The Road Part 2. Che strano. Ma i vostri sono di Napoli? No, siciliani. Siciliani? Già. Oh. Che c'è di strano? Niente, niente, niente. Che c'è? Niente. Eh? Niente, niente. Avete un bagno qui? Dico, se avete una stanza da bagno. Certo che c'è un bagno, certo. A casa mia non c'è, per esempio. No. Vorrei darmi una sciacquata perché ho paura di puzzare come una capra. Per carità, accomodatevi pure, da quella parte. Con permesso. Prego. Oh, Madonna Santa. Madonna Santa, il corpo di mio marito con la testa di un pagliaccio. Un pagliaccio che puzza come una capra. Oh, Vergine Santa, dimmi, ma... questo sarebbe il segno, eh? Oh, per piacere. E questo era un momento della Rosa Tatuata con tanto di introduzione agli Oscar, quando pensa l'emozione. Lei non era lì, vero? Non no, era a casa, ricevette una telefonata. No, vabbè, dai. Il cuore della notte, sì. Ma dai. Ma era stata, lei ha recitato in inglese. Sì, infatti ho sentito non, il doppio audio sulla non conoscendo assolutamente l'inglese. Sì. Per due mesi è stata aiutata da un'attrice italiana che viveva lì. Credo che comunque ci stava perché non era americana, insomma, l'attrice, il personaggio che interpretava era italo-americano. Ma infatti, insomma, se andiamo a vedere i film interpretati da Sofia Loren, interpretava comunque un italiano in America, certo. Ma loro sono così, loro sono molto onesti intellettualmente. Non è un caso che in forse America, se tu fai una cosa, la fai sempre con le origini che hai. Vuoi dire che noi in Italia non siamo onesti perché non abbiamo dato risalto a certe cose? Ecco, anche, però insomma non diamo tante volte, ci autoflagelliamo noi in Italia, siamo bravissimi e ci facciamo male da soli, in tutti i campi certo. Abbiamo inventato veramente tutto e ogni tanto spesso ci stiamo dimenticando quanto siamo bravi, che nazione meravigliosa abbiamo e che gente meravigliosa fa parte di questa nazione, non bisogna dimenticarlo mai. E c'è un momento importante invece, importante, che è questo dell'ultimo momento della tua carriera che stai dedicando a un altro. Sì, perché ci sta nascondendo un'altra piccola novità Gerardo, ma io vorrei cominciare ad introdurla questa novità, perché tu ti stai occupando, stai scrivendo un altro libro dedicato a un'altra grandissima doppiatrice italiana. Chi è? Lidia Simoneschi. Che cosa rappresenta per te Lidia Simoneschi? Perché ti vengono gli occhi a cuoricino tutte le volte che ne parli. Anche per le persone che stanno ascoltando, che si stanno avvicinando anche al mondo del doppiaggio, che le stiamo prendendo per mano da un po' di tempo. Lidia Simoneschi era la voce di tantissime attrici americane e non solo, insomma. Sì, per esempio Ingrid Bergman. Così, per esempio. Ma come dice Angelo Maggi nel suo spettacolo, Lidia può essere Ingrid Bergman e la Maga Magò di La Spada. Ah, è lei, Maga Magò, certo. Per cui è una gamma straordinaria, infinita, di tonalità e timbri che lei riesce a proporre con estrema facilità. Questo è come Pelé e Maradona. Lidia Simoneschi o Tina Lattanzi? sì. È come Pelé e Maradona, chi preferisci? Lidia Simoneschi. Sì, non c'è assolutamente non c'è dubbio. Quindi, qui c'è il manoscritto. Che cosa è successo brevemente? Io scrissi per Le Voci del Tempo Perduto una biografia di Lidia sulla base di uno scritto che mi fu dato dal figlio Giorgio Lehmann. Lei era sposata a Franz Lehmann, un pilota dell'aviazione che morì nel 42. In piena guerra. In piena guerra. Ecco, Giorgio mi mise a disposizione questo materiale preziosissimo, scrissi la biografia e questo accadde nel 2000. Scusate, quello che sentite non è Alessia Navarro che si sta ubriacando con un bicchiere di vino, ma è sorseggiare un goccio d'acqua di fronte al microfono. Morendo, fa l'attrice, scusate. Fa la doppiatrice, ma lei si dimentica che il microfono prende tutto. Scusate questa divagazione. Adesso parlerà così Alessia. Bene, Gerardo Piccola. Stavamo dicendo. Allora ti ha dato questa possibilità di raccontarla. Nel 2001 ricevo queste notizie da Giorgio, purtroppo è scomparso qualche mese dopo, e nel 2004 scrivo la biografia e quindi con tanto di interviste, insomma, sono testimonianze di chi l'ha conosciuta, di chi l'ha vissuta. No, questo non fu per nel 2004. Ah, non c'era già più nessuno. Mi sono basato soltanto sulle notizie datemi dal figlio che sono attendibili, insomma. Poi ce l'ho anche documentato io, sì. Ho tutti i documenti di quello che dico, non te possono denunciare, insomma, ecco. Nessuno. No. è tutto vero. E 2 anni fa ricevo una telefonata dalla California. Mi voleva? Dice: sono il figlio Naldo. Di Lidia Simoneschi. Ma come? No, lei, scusi, mi sta prendendo in giro. Certo. No, sono il secondo figlio di Lidia Simoneschi. E lì si è aperto un mondo? Un anno fa il signore è venuto dalla California per conoscermi. Figlio, ma sempre dello stesso padre o un'altra situazione? Questo non te lo voglio dire. Però sempre americano. No, quello era pilota d'aviazione americano. Ti posso solo dire che insomma, questo secondo figlio si chiama... Il primo Giorgio Lehmann, uh-huh. Il secondo Gianni Lehmann. Ah, certo. Il padre di Giorgio morì nel 42. Questo... Gianni è nato nel 49. Va bene, hai detto tutto. Però comunque è figlio. Ora fra un mese esce il libro Lidia Simoneschi, la voce del cinema italiano, e quindi potrete soddisfare le nostre curiosità. Ma questo è bello, sai, veramente per le persone è bello prenderle per mano e portarle in un mondo che conoscono, come facciamo tutte le domeniche, facendogli sentire le voci dei loro beniamini, perché insomma sono adesso, possono andarli a sentire al cinema. Ma è bello scoprire da dove parte tutto questo, perché all'inizio il doppiaggio era proprio, sembrava un lavoro di nascosto, fatto di notte dentro delle sale al buio. Invece il film sono stati sempre doppiati, è nato poi negli anni 20, no, il doppiaggio da noi, insomma, voluto fortemente 30. Negli anni 30, voluto 20. Fortemente poi dal regime che c'era prima, insomma, sì, per salvaguardare la lingua italiana anche, soprattutto. Però non era l'aspetto principale, lo dicono, ma non per era salvare la faccia. Invece perché cos'era? No, perché l'italiano non sapeva le lingue. Le lingue, poi era per il 50% analfabeta. Certo, aveva molta difficoltà a seguire anche difficoltà. È chiaro che poi anche il regime ha pilotato. Ha agevolato, chiaro, ha cavalcato. Volevo solo dire che per dare corpo, noi ci siamo visti un anno fa, in questo anno io ho realizzato... Lidia Simoneschi. Sì, ma con 30 interviste di quelli che l'hanno conosciuta. Certo, Gerardo, io sto aspettando con ansia il mio libro, ma non so se me lo senti male per far scrivere lo un libro. Lo scrivo con Alessia. Però da vivo facciamo queste cose, facciamo che mi fate l'intervista a me, dai. Che poi raggiunge un'utenza molto ampia, perché comunque non è soltanto un'opera da addetto ai lavori. No. È un'opera che, ripercorrendo la storria dell'artista a 360 gradi, anche da un punto di vista umano, può avvicinare chiunque. No, cioè, ma soprattutto la storia del cinema e tutto, questo al DAMS dovrebbe... Sì. Prendere, visto che fanno tanta teoria e poca pratica, dovrebbero prendere sotto braccio sti libricini e raccontarli, sti libricini per modo di dire, perché insomma, se tu non dici che il Vangelo secondo Matteo, Gesù, che era sicuramente preso dalla strada dal grandissimo per Paolo Pasolini, c'aveva la voce di Enrico Maria Salerno, certo, insomma, no, certo. Diciamo, Clint Eastwood era Enrico Maria Salerno, sì. No, adesso non è un cinema neorealista, però dopo... Dopo anche Michele Calamera. Dopo il grande Michele Calamera, che lo stiamo aspettando. Sono due anni che faccio questa trasmissione, sono due anni che lui sta impicciato con l'estero. Sì, sì. Vabbè. Fa delle fiction fuori sede, sto uomo. Dopo gli chiedo di venire. Esatto, precettalo tu Gerardo, perché Calamera col K deve venire. Anche perché grazie a lui ho doppiato il mio primo film da protagonista, che era Il Cavaliere Pallido, con Clint Eastwood e il povero Christopher Penn, fratello di Sean Penn, che ormai ha buttato al vento la sua vita con droghe e quant'altro. Va bene, caro Gerardo, allora io sto per far entrare Elena e Davide Perino all'interno della trasmissione. Già i primi messaggi arrivano, addirittura uno dice: ma vogliamo parlare di quanto è bella la Perino? Dice Jacopo: ma dai Jacopo, quelle sono le foto che mette lei sui siti, lei in realtà non è così, ve lo posso garantire. Va bene Gerardo, allora a prestissimo, perché grazie. Abbiamo tanto da raccontare per quanto riguarda la tua vita, e soprattutto la tua vita legata al mondo del doppiaggio e della voce. Certo, grazie Pino, grazie a te Gerardo, e saluti a tutti a voi radioascoltatori. Noi continuiamo ovviamente a portarvi sotto braccio in questo mondo meraviglioso della voce. Vi abbraccio a tra pochissimo con Davide ed Elena Perino, che vi ripeto non è un duo musicale, ma sono due bravissimi doppiatori molto giovani. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, una pausa leggermente più lunga. Abbiamo dato modo anche ai nostri due ospiti, stavolta due bravi attori, doppiatore alla mia sinistra Davide Perino, alla mia destra la bellissima Elena Perino, già sublimata attraverso i vostri messaggi. Allora, grande Davide Perino, dobbiamo raccontare chi sei tu e chi è lei, anche perché magari non vi conoscono così, ma vi conoscono attraverso le vostre voci, che sono rappresentative. Sembrate due gemelli, ma non siete gemelli. Tu sei No. Tu quanti anni hai, Davide? Io 35. 35, tu? 31. 31. 31, però siete giovanili tutti e due, insomma siete giovani comunque. Però ho saputo una cosa mentre c'era la pubblicità da tua sorella, che è bellissima, il fatto che abbiate fatto tutti e due insieme la maturità, e non riesco a capire, visto che c'è 4 anni di differenza. Sei blu ribocciato tu, sì, ignorante. Sì. Ci ho messo 10 anni. 10, perché ti è piaciuta anni tantissimo. A cambiando poi vari indirizzi, cambiando voce pure anche ogni volta con un professore diverso. Ho fatto il liceo artistico, ho fatto l'istituto. Senti, per... mi è cresciuta la voce, questo era Frodo, era anche Chicco. Era Chicco, e da Chicco mazza è passato. Mamma tanto, mia, Frodo sembri mio padre adesso, ma che scherzi. Ma dimmi, poi vi racconterò un po' di Frodo, che cosa è successo in quei periodi della trilogia del Signore degli Anelli. Beh, tu avevi già cominciato. Tu hai già cominciato a doppiare, però, insomma, visto che già cominciamo a parlare di voi, durante... quando hai cominciato a fare il doppiatore, l'attore, il doppiatore? Allora, io ho iniziato con il cinema. Avevo due anni e mezzo. Ho iniziato con Sergio Castellitto, Stefania Sandrelli in un film. Castellitto, ma anche tu hai fatto l'attrice Castellitto, sì. A Non ti muovere. Sì, ironia sì, della sì, sorte. Ma c'è tutta una storia. Chi ti ha raccomandato? Tuo fratello che ha fatto. Tu l'hai raccomandato per il liceo e l'hai fatto per il liceo con te qui il quinto anno. Sembravate gemelli. In effetti vi assomigliate tantissimo, a parte la barba che non ha. Vabbè, tutte le mattine faccio pelo contro pelo. Esatto. Quindi tu con Castellitto e tu Non ti muovere. Con Castellitto è un grandissimo film. Sì. Il tuo è più bello, però, secondo me, di Magic Moments, dai. Beh, dai, Magic Moments. Oh. Ho capito, non me lo ricordo, per esempio, però Non ti muovere, Castellitto, me lo ricordo, un film bellissimo. Era il primo film anche per Sergio. Non voglio offendere Sergio, che è un caro amico ed anche bravissimo. Non mi mette in cattiva luce con Castellitto. Che poi ci sono degli aneddoti bellissimi, perché mia madre fece con Castellitto l'Accademia d'Arte Drammatica. Ho capito, e... tutti i 16 figli di Castellitto, perché dite ma la verità a sto punto. E lui, dopo che mi aveva preso per Non ti muovere, mi disse: dice, ma Perino, ma che c'è un parente coi capelli rossi? Dico, certo, è mio fratello. E quando incontrò mia madre, gli disse: hai finito i figli? Perché i film, eccoli. Sembra i figli di Braveheart, quei due. Siete proprio... Poi mamma l'hanno presa in giro per molto tempo, perché io sono l'unico rosso del doppiaggio. Sì, è vero. Insieme a Roberto Chevalier. È vero, no, Roberto è un ex rosso ormai. Eh sì, e la Pepitone. Allora, dato che Roberto ha un figlio, ma non è rosso. No, Davide no. E io sì. Sì. E si chiama Davide. Esatto. Allora tutti hanno fatto per tanti anni: ma Silvia, ma quando stavate a teatro, la compagnia, esatto, ma non è che peccato, magari fra un primo e secondo cosa? Atto. Ma no. Se non fosse che assomiglio a mio padre. Esatto, tuo padre è rosso. Sarebbe... No, sono l'unico. Però tua sorella è rossa, perché no, questo è finta. È tinta. Sì. Allora è possibile che tu sia il figlio di Roberto Chevalier? Potrebbe. Poi dicono tutti che saluto come lui. Ciao ciao. No, no, questo non è bello però da parte di nessuno dei due. Io però per farvi capire chi è questo signore, sentiamoci subito un momento di... Tu sei il doppiatore ufficiale di Elijah Wood, insomma. Sì, l'ho anche conosciuto. Ma hai conosciuto? Sì, sì. Siete altri uguali poi, piccolino. Identici, 1,68. Stesso numero di piede anche. Vabbè, ho capito, non voglio andare oltre. Sì, ho capito, non voglio andare oltre, magari qui parliamo dei centimetri. Allora, tu hai doppiato 25 volte Elijah Wood. Qual è stato il primo film? Sono più di 25 anni che l'ho doppiato. I miei autori. Ah, per cui 25 volte l'hai doppiato. E l'hai conosciuto, che ti ha detto? Tu, me doppi te? No. No, in realtà ci hanno microfonato, lui fuori, certo. Io stavo già dentro la sala dove ci stavano riprendendo, siamo stati alla fine mezzo pomeriggio insieme. E hanno voluto... riprendere la sorpresa che scusa, ma tua sorella si impiccia dei messaggi. Pensa a concentrarti per la trasmissione. Lei è social, quindi va buono, lascia stare. Se ci chiedono, è molto lungo questo messaggio. Se è possibile recuperare la colonna dialoghi del doppiaggio a tutti quei film del cinema in bianco e nero ridoppiati poi una seconda volta. Guarda, molte volte, spesso sono anche in colonna, in doppia colonna i film ridoppiati. Cioè esiste Grisa, Febbre sta possibile, per dire non in bianco e nero ma a colori, ma esiste la versione giusta, quella meravigliosa di Flavio Bucci, ed esiste quella nuova. E così dovete fare una ricerca. C'è anche una linea, sembra una linea di moda, ma da Feltrinelli eccetera trovate questi film antichi in bianco e nero col doppiaggio originale, c'è proprio una sezione dedicata, per cui fate queste ricerche anche all'interno di questi negozi, che non è pubblicità ovviamente, sono così pochi ormai quelli che vendono alle persone al dettaglio. Sì. L'Istituto cose. Luce presenta. Hai capito, per cui allora dicevo, tu vi siete conosciuti, lui era microfonato all'esterno, tu all'interno. Io all'interno, l'hanno voluto riprendere proprio la sorpresa. Che trasmissione era, scusa? Era un documentario che mio amico regista americano stava filmando su Elijah Wood. No, sul doppiaggio italiano. Grazie che non mi ha chiamato. Mi ha chiesto bastardo, scusa. Guarda, tu, ma ti dico, eravamo alla fine siamo diventati amici, ha incluso anche me dentro il documentario. Certo. Eravamo io, sì. Pedicini. Certo. posso immaginare quante volte gli ha rotto le palle Pedicini a questo. E poi un giovane ragazzo che sta entrando nel settore, quindi ha voluto fare tre differenti personaggi. Uno già in carriera, adulto, certo. Uno un giovane in carriera e l'altro che vorrebbe intraprendere. E chi è? Per cui quelli a fine carriera non c'era posto. Ti ringrazio. Questa me l'ha suggerita Mauro Meconi all'interno della cuffia. E niente, e chi è questo che sta entrando in carriera? Che è entrato in carriera questo terzo? Sì, no, fa piccole cose. Io spero che tutte e tre tornerete a fare piccole cose. Anche questo regista che non abbia fatto più niente dopo questo documentario. L'ha presentato a vari, ma non c'è a vari stato festival. Ha vinto tutti i festival a cui l'ha presentato. Non li conosco, non ho mai sentito parlare di questi festival. No, Elijah quando è arrivato davanti a me ha fatto piacere, Elijah, io. No vabbè, da coglione, così, dai. Stai bruciato così. Ma Davide, a me quando mi hanno sentito Viggo Mortensen siamo fumati la sigaretta assieme. Vabbè, ma un'altra stoffa, un'altra generazione. Io ero Aragorn, tu eri Frodo, per cui. Capito, di che stiamo a parlare. Sentiamoci un attimo Elijah Wood doppiato dal bravissimo Davide Perino. Eccolo, Frodo. Vi ricordate il sapore delle fragole? Sam, non ricordo il sapore del cibo, né il rumore dell'acqua, né il tocco dell'erba. Buio. C'è tanto buio. Non c'è velo tra me e la ruota di fuoco. Lo posso vedere con i miei occhi da sveglio. E allora liberiamocene. Noi a cosa siamo aggrappati, Sam? C'è del buono in questo mondo, padron Frodo. È giusto combattere per questo. C'è del marcio. Ma che bambino! Ma certo, comunque lui fa la parte più... è la tinca, come si dice in Italia, no? Come Romeo e Giulietta, la parte bella è Mercuzio. Perché Romeo è sempre... esatto, eccetera. Esatto. E Frodo era così. Il vero eroe, poi alla fine era... Quanti anni sono passati? Il 17 anni. 17 anni. Mamma mia. Eri piccolo, giustamente, 18 anni. Sì, 18-19 anni. Qui eri il padron Frodo. Mamma mia. Mamma, no, Harry Padron Frodo, sì, è vero, stai sempre con Sam. Secondo me c'era qualcosa. Vabbè, ma questa è una storia. È come Batman e Robin. Secondo me, fra Sam e Frodo, non me la racconta giusta Tolkien. Questi tolkieniani mi denunciano. Beh, no, i tolkieniani hanno sempre sospettato che c'era una cosa. Sì. Ma perché sospetta? Se non è scritta, non c'è. Perché, io nei 16 anni successivi sono amici, film, ho girato per tutta Italia, ho conosciuto tutti i tolkieniani. Sì, anch'io. E quindi mi hanno raccontato che in fondo. Vabbè, ma lo tirano fuori da, come sospetto. Batman e Robin, ma non c'è mai una scena di letto fra Batman e Robin, no. Si può menzionare che c'è una grande amicizia, grande intensa amicizia, sì, perché profonda, perché gli ha dato l'anello quando sono sposati, dai, non è così. non banalizziamo una storia straordinaria come quella di Lord of the Rings. Risentire la voce di Elena Perino riapre una vecchia ferita. Quanto mi manca la regina rossa di Watt in Wonderland. Bellissimo. Ma tu lo scordi che fai certe cose? Ma guarda, era una serie bellissima che ha diretto Claudia Razzi e purtroppo però è andata sulla Rai, ma tipo di domenica mattina, tipo alle 9 del mattino. Però vedi quanto è attenta. Non sono riuscita a vederla. Però bellissimo. No, ma questa, devi sapere che i radioascoltatori di Voice Anatomy sono attentissimi. Sì, è l'alternativa al calcio in questo momento. E soprattutto una radio che dà la possibilità di dare voce alla voce, è una cosa bella. Anche perché lo dico sempre: la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo. Tutti dovrebbero sapere utilizzare la voce. Ma non come attori o la bella voce, dovrebbero studiarla a scuola. Perino sarebbe stato bocciato. Lui bocciato. Però la voce va studiata, l'impostazione vocale va studiata, perché tu sarai un medico, sarai un senatore, sarai un architetto, dovrai comunicare, sarai un capo azienda. Sì. Santa miseria. Il coaching è importante. Vabbè, a parte questo, ascoltiamoci invece anche un Elena Perino. Vogliamo sentire un'Anna Kendrick in Cosa aspettarsi quando si aspetta? Lei continua a sbirciare, non riesco a vedere. Te le faccio vedere i messaggi. Madonna, quanto è brutta la Perino, si assomiglia alla sua voce proprio. No, non c'è. Che diceva Rachele, stava dicendo qualcosa all'altra parte del vetro, che lei ogni tanto interviene sui doppiaggi. Che volevi? Ha fatto anche Make It or Break It. Bellissimo! Come sentito a Make It or Break It? Ho capito. Ho sentito soltanto questa cosa in interfono. Make It or Break It. Era Giovani cos'è? Campionesse, una serie delle ginnaste. E tra l'altro, quella serie e quella dove faccio la Regina Rossa, mi piacerebbe averle, ma non so come. Non ci sono cofanetti. E mi piacerebbe rivederle. Vabbè, fate un regalo, un cofanetto alla Perino di Make It or Break It. Vabbè. Invece, ascoltiamoci questa Anna Kendrick di Cosa aspettarsi e quando si aspetta. Cosa credi di fare? Il maiale lo tratto io. Lo tratti tu? Sì. Siamo a West Side Story e ci battiamo a mezzanotte. Certo. Sei il furgone del formaggio, niente invasione. È buffo, ho notato che in quelle frittelle di jalapenos che servite voi. Oh, la mia grande invenzione. C'è la ricotta dentro. Oh, ma dai, è un pezzettino, niente rispetto a quel lenzuolo di pancetta che stendi sui tuoi sandwich. Sono panini al gorgonzola con un assaggio di pancetta, anche loro pazzeschi, guarda che. Sono fratello e sorella, intervengo, ma mi tolgo. È il tuo special contro il mio special, chi ne vende di più stasera vince. Va bene. Allora, se vinco io, vieni a farti una bevuta con me. E se vinci tu, vieni a farti tre bevute con me. Che gentile. Ci vediamo in campo. Non è che non ci dorma la notte. Certo. Chi è quello? Uno che stava al liceo, un tacchino pazzesco. Ah, è finito, scusate, ero molto. Ma ero io. Eri tu, è vero, non lo sapevo. Ma qui c'era che facevo lo sbruffone. Ci provavi con tua sorella, ma guarda che è una cosa. No, mi ha messo incinta su quel film. No, vabbè, possono succedere queste cose fra attori, dai. Non c'è bisogno di rendere parte integrante. Sì, ma ce lo fanno apposta. Esatto. Lo fanno, ve mettono insieme apposta. Però dopo quel film, Sandra Cerbo ha deciso di non chiamarci più insieme. Esatto. Iperino fatto insieme. Mai. Invece qui sì. A tra poco. Voice Anatomy con Iperino Family. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati alla mia sinistra Davide Perino, alla destra la mia Elena Perino. La Perino Family, vi ho raccontato che insomma Perino, a parte non essere stato mai promosso al liceo, ha doppiato 25 volte Elijah Wood, sempre praticamente. Praticamente sì, sempre, sì, abbiamo sempre iniziato insieme. E tu invece qual è il tuo core business, come si dice in comunicazione, visto che siamo a Radio 24? Tu ancora giri a destra, a sinistra? Sì, anche se la Kendrick l'ho doppiata in ormai 7-8 film. Vabbè, ma tu, ecco, ultimamente ho visto questa serie bellissima che è Mr. Robot. Bellissima. Che meraviglia è. È stupendo. Io aspetto che esce il cofanetto. Sì. E quando mi chiamano per doppiare una serie che io sto guardando, faccio finta che sono impegnato. Non voglio rovinarmela. Sì, sì, faccio così. Solo sì. Downton Abbey ho accettato di andarla a doppiare, anche se la guardavo perché volevo rendere la vita impossibile a mia moglie, perché mi ha distrutto con due spoiler, due finali di due serie mie. L'ho detto, vado a doppiare Downton Abbey, gliela sfondo. Così mi vendi. Mi sono vendito solo con lei perché non possiamo farlo in diretta, se no ci arrestano. Per cui gli ho detto, come andava a finire Downton Abbey, gli ho rovinata. Tra sì. L'altro, Mr. Robot, e tu sei appassionato. Bellissimo, di colonne, no? Sonore? Ah, sì, sonore? So. Una colonna sonora. Sì, sono due CD diversi, sì. Il primo e il secondo. Tu ce li hai? No. Sono in numero limitato, sono solo 1000 copie all'uno, per davvero? Cui... già, mi dispiace. Ma io so di una persona che potrebbe avere il tuo quantitativo di... No, no, ce n'è uno che sta io nelle Marche. Lo conosco. Chi è? Dillo. Fugliano. Ah, Claudio Fugliano è un pazzo. Claudio Fugliano ha anche delle pezzi di colonna sonora che non hanno gli autori originali. Cioè è Morricone che chiama Claudio, sì, sì. Fugliano e dice, c'è quel ma pezzo, c'è quel mio? Quel pezzo che avevo fatto, non mi ricordo dove. Lui sa degli M, come si chiamano in musica, in più rispetto agli autori. Allora, che volevo dire? Tu, Mr. Robot, tu sei Angela Moss, vero? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Bellissima che, quella serie. C'è stata la terza stagione, no? Sì, lei avrà una bellissima evoluzione. Zitta, lo sai, no, che non puoi spoilerare. No. Se Matteo ci ammazzano, ci sparano. Altro che anche sulle regole del delitto perfetto. Tutti mi chiedono, ma... Stai alla quarta lì? Sì. Anche sì, perché no, hai firmato svariati fogli. Sì, no, noi firmiamo, dovete sapere, esatto. Firmano dei fogli dove ci arrestano veramente, sì, ci fanno una multa infernale. Se pensate che al Trono delle Spade ci levano anche i telefonini quando entriamo. A voi? Ah. Sì, ma beh, ho capito, ma siete niente, in bianco e nero che strisce davanti, io insomma, manco chi sto doppiando. No, ma adesso l'America si può collegare e vedere le telecamere in tempo reale, sì. Quello che combiniamo noi nelle sale, l'hanno fatto al Synchro Studio. Sì, sì, succede anche questo, soprattutto con questi... Ormai la serie ha superato il film, cioè nel senso il film che si doppia, ma le serie non so più come una volta, fede. Come facciamo noi quando si ama a Valle dei Pini, far con queste cose qui. Adesso le serie sono proprio cinema, vero? Ma l'hai letto quello che c'è scritto nelle... No, mai, ho sempre firmato. Scritto, noi non possiamo parlare qui, sulla Terra. Sulla Terra? E negli universi conosciuti. No, c'è scritto proprio così. È bellito, fa una foto a sta cosa. Come se io andassi, io ne so, ma che faccio oggi pomeriggio? Me ne vado un attimo sulla Luna. Sulla Luna e parlo. Non posso dire niente, neanche lì. È vero, io so, quando si fa Disney si firmano degli diritti eterni, quando si fanno queste cose, sono Eternal Rights, che sembra i film col sangue, il patto, sì, col diavolo. Perché i tuoi figli, i figli dei tuoi figli non avranno nulla a che pretendere se un giorno sentiranno la voce di loro nonno dentro un film o dentro un videogioco, un gioco. Questo mi aveva divertito. Incredibile. No, sulla Terra e sugli e universi... universi conosciuti. Ma quali sono gli universi conosciuti? Tu ne sai qualcosa perché hai doppiato un film sugli universi sconosciuti importanti o no? Vediamo un po'. Aspetta, i Transformers oppure... Ma che Transformers? Sì, è vero che sei Shia LaBeouf. Ma il film che l'ho tutto... Dai! Ah, sì! Ma sei pazzo! Quale? Giusto, Stephen Hawking. Tu hai fatto la... Giusto, hai doppiato quell'attore che non so come si pronunci, ma... Eddie Redmayne. Redmayne. Che tu non l'hai doppiato, invece l'altro l'ha fatto nel film The Danish Girl. The Danish Girl. No, più leggero l'ha fatto. Alterniamo io e Flavio Aquilone. Le devo dire bene. E noi abbiamo preso un pezzo tratto da Animali Fantastici, dove torni a doppiarlo tu. Sempre Eddie Redmayne, sì. Sì, però quella, la teoria del tutto, è meraviglioso, dai. Hai fatto un lavoro grande. Tu hai visto? Hai vinto il Gran Premio? Ho vinto il premio lì. Il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, il vero. Per The premio. Social Network e per la tu teoria ne del tutto. Già due, pensa quanto è vero sto premio. Cioè, è vero, quando uno vince più di una volta. Uno per Jesse Eisenberg e uno per Eddie Redmayne. E allora sentiamoci prima di Animali Fantastici di Eddie Redmayne. Sentiamoci un momento invece di Social Network, film bellissimo, dove tu doppi il protagonista che è Zuckerberg, e poi sì. Jesse Eisenberg, che poi il nome è quello, insomma, sono tutte e due di origine ebraica, immagino. Credo di sì, credo. Va bene, credo, lui credo. Non io sono niente. No, io ricordo blu ribocciato. No. Sì, è vero, blu ribocciato, Perino, perdonami. 10 anni di liceo. Sfido chiunque. E quanti di doppiaggio? 30. No, non sta bene. 30 qualcosa. Mamma mia. Allora, sentiamoci un momento di The Social Network, prego. Ti avevo detto che era bella, mamma, non è vero? Certo, Chico, basta così. Ora non versarlo. Non è The Social Network, abbiamo fatto apposta. Sentite, questo è Chico, della Bella e la Bestia. È sempre lui! Chico! Ops, scusa. cosa. Hai fatto una cosa molto coraggiosa, mia cara. Lo pensiamo tutti. Ma ho perso mio padre, i miei sogni, ogni cosa. Sorridi, bambina. Vedrai che tutto si aggiusterà alla fine. Vedrai. Oh, che perdi tempo. Sto qui a chiacchierare quando c'è una cena da mettere in tavola. Chicco. Ciao. Questo è un gioco che abbiamo fatto da qui all'altra parte con i nostri tecnici e autori. Chicco sei? Che te ne avevi? Avevo tipo 9 anni. Tu eri la tazzina piccola del servizio... della sbreccata, perché lui in realtà da bambino aveva il dentino sbreccato. No, arrivavo sbroccato. Questa è stata la prima cosa importante che ho fatto. Te fa pensare o no? Stacchi, grande Stacchi. Beh, bello, è vero, Renzo Stacchi. Renzo Stacchi. Alla Fonoroma, grande doppiaggio pure. Quello è stato bello. Poi insomma, epocale, anche se adesso c'è il film in carne ed ossa con la Bella e la Bestia. No, non fai chicco, qui non c'è. No, non mi hanno chiamato, non capisco perché. È strana sta cosa, esatto. Chicco che sei con la prostata che è cresciuto. però pensavo che avessero chiamato qualcuno di giovane. Corvo. Massimo Corvo, no, certo, dopo Lawrence Fishburne e Stallone era giusto. Tu pensa, no, per la Bestia. La Bestia. Ma è più giovane, c'è l'amico Mete, Andrea Mete, che doveva fare la Bestia. Sì, ma quando è Bestia è Bestia. Ma lì sai se piccia la voce, credo che lì ci sia. Vabbè, che pure Andrea c'ha. Sì, bella vocione, però insomma hanno dato evidenza al fatto che quando tornerà giovane, poi un lavoro che ha fatto, credo, Fiamma e Izzo, molto bene. Poi la sua voce, insomma, certo. Essendo una cantante lirica, una direttrice conclamata e acclamata, insomma, è riuscita a portarlo su dei toni importanti. Fiamma, sì. Oppure quando ho fatto Wolverine, mi ha chiamato un'ora prima che cominciasse il turno e facevo il fratello. Sì. Facciamo degli esercizi. Io ho capito che le cose non sarebbero andate tranquille. Perché uno che ti chiama è 8 di mattina e fa un'ora di esercizi vocali prima di affrontare il film, vuol dire, in effetti, la cosa più tranquilla era: ciao, fratellino. Cioè, era una cosa brutta, sembrava un orco. Poi invece ti racconto che cosa ha fatto la Vespini a me quando non sono arrivato preparato a un turno alle 9 con la voce. Dillo, che film era? Era quel film con Robert Redford e Le regole del silenzio. Uh-huh. C'era Shia LaBeouf che faceva il giornalista e io a uno di questi turni arrivai dopo, era un lunedì, arrivai dopo un weekend in cui ho viaggiato, ho fatto tardi le cose. Tu hai già fatto i Transformers, no? Sì. L'avevo fatti e insomma Shia LaBeouf l'avevo già doppiato svariate volte. Però arrivai quel turno di mattina con la voce, sembravo Draghetti. Roberto Draghetti c'ha un vocione, ma non indifferente. Bella. E lei, la Vespin, ma potevi pure sembrare Pino Insegno. Comunque, vabbè. Non è importante, sono solo un conduttore. Tu qua, ce l'hai sono... più pulita di Draghetti. Ho detto Draghetti perché. Si è salvato. Va bene, ti perdono, vai. Mi ha massacrato. Sì. Ma abbiamo iniziato fatto il turno tardi? Alle 10:15. No, non perché io sono solito arrivare tardi a tutti i turni, ma. Non era quello il problema era con che voce mi ero presentato al turno, primo turno. Perché tu bevi la notte. Sì, qualche bevutino, poi ho fatto un viaggio lungo, quindi mi ero stancato. Ma magari non lo conoscevo sotto sto punto, sembra un bravo ragazzo, invece è un tossico dipendente. Uno sfascione. È un tossico indipendente. Indipendente. No, a parte gli scherzi, ovviamente, tutto il rispetto. Questa è una bella idea, perché non riproporre... in Rai o all'ora esatta con le voci dei vari personaggi doppiati, magari con i toni usati nelle parti salienti dei vari film, magari pure le estrazioni del Lotto. Carina. Mi dici che ore sono adesso con la voce di Frodo? Sam. Sì. Sono le 15:55. È ora di andare. Il Montefato ci aspetta. Sai, invece tu, dimmi oggi che giorno è con la voce, io so, della regia. Quale preferisci? La voce delle. Quale... Oddio, della regina, la regina rossa. Vai. Oddio, che giorno è poi tra l'altro? Oggi è il 12 marzo 2017 e sono le 15:55, sbrigati. Vai. È plutonico quello. Vai, non state bene come famiglia, vai. Oggi è il 12 marzo e portami quell'ampolla al più presto. Ecco, non è male così. Beh, ci sono anche le stazioni dell'8, inventa 10 un'estrazione su Roma... con la voce di magari dell'ultimo, della teoria del tutto. La teoria del tutto. Difficile. Allora, mi accrocco un po'. Come... Sì, beh, anche lì. E sulla ruota di Roma abbiamo il numero 35, 38 e 47. Ambo! Shia LaBeouf. Transformers. Transformers. Sempre. Beh, sì, da eroe. Optimus! Abbiamo il 44, 33 e 32. Presto, ci sono i Decepticon. No, è terribile. È terribile. I Decepticons. Il Decepticon è difficile. Ma sempre fregato, però. È come Massachusetts. È difficile. Massachusetts. Certo, pure i nomi di Transformers sono durissimi, veramente. Va bene, restate con noi. A tra pochissimo. Voice Anatomy and the Perinos Family. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Anatomy. Bentornati signori miei, 16, 6 primi e 51 secondi, ancora la Perinos Family che ha tanto da dire, ovviamente voi dovreste tornare perché a un certo punto arrivano tantissimi messaggi, vediamo un attimo, vabbè ogni talento è bella mamma sua, questo è Mario da Rimini. Sto arrivando con l'ampolla per Perino, dove suono, bravissima sempre, Ari da Roma. Vabbè, che c'entra questa cosa? Vabbè, il piano tariffario mi è arrivato, ma non c'è. Piano tariffario. Vabbè, non è arrivato. Senti, cliente allora. L'hai chiamato? Che c'entra? Ah, sei tu? No, no. Beh, sarebbe male fare le voci anche perché il telefono offre questa possibilità. Perché sì. Tu per telefono sei Elijah Wood, non è che sei qualcun altro. Che cosa ti chiedono per la strada di fare qualcosa? Non ti riconoscono, ma quando sanno chi sei. Ma mi è successo solamente due volte che mi avessero riconosciuto, due volte in tutta la mia vita, una volta a un McDonald's, sono arrivato lì per ordinare un panino e quello, ma io la tua voce, ma l'ho sentita, ma tu sei un doppiatore. E poi un altro, e non ha, gli ho stretto la mano, gli ho stretto la e mano. Basta, lì è finita. E poi un altro alla stazione dei treni, mi ha sentito chiedere una cosa insomma una persona, mi scusi, quando cioè, arriverà esatto, ma treno? Che binario è? Ma te sei un doppiatore, te sei la voce di quello, quell'altro. Ho fatto, sapevo porca tutto. Miseria, ha fatto ammazza, oh. Sicuro che non gli hai chiesto il treno per Mordor? Il treno no. Per Mordor, non è male. Diretto. Cioè, effetti, a te manca soltanto il povero Harry Potter, effetti. No, adesso sono il nuovo Harry Potter io. Ah, è vero, perché sei Animali Fantastici. Adesso sono Animali Fantastici. Ci sentiamo un momento di Animali Fantastici e dove trovarli? A me il titolo mi fa ridere, però. Ho spodestato Puccio. Hai levato Puccio, vabbè, non è più lui, ma è Eddie Remagore. Come si pronuncia? Fortuna è arrivato un grandissimo amico, non vedo l'ora di farlo entrare in sala. Non voglio dire niente. Ascoltiamoci invece un momento tratto da questo film di grandissimo successo. Questa signorina che scrive questi libri credo abbia problemi con la pigione a fine mese. Dei grossissimi problemi. Credo che sia più ricca della regina. Sì, credo. Sì, siamo soltanto io, Barry White e la regina più ricchi tra e basta. Vai, ascoltiamocelo. Lei è quello con la valigia piena di mostri, eh? Le notizie volano. Speravo che fosse in grado di dirmi se ci sono stati avvistamenti. tracce e cose così. Lei ha una bella taglia sopra la testa, signor Scamander. Perché aiutarla invece di consegnarla? Immagino che dovrò convincerla in qualche modo. Quindi lasciare libero un branco di pericolose creature è stato solo un altro incidente? È così? Perché avrei dovuto farlo apposta? Per smascherare la stirpe dei maghi. Provocare una guerra tra il mondo magico e quello non magico. Intende un massacro per un bene superiore. Non sono uno di quei fanatici di Grindelwald, signor Graves. Eccolo là, tu sei Animali Fantastici. Signor Graves. Ne arriveranno altri di Animali Fantastici, dove trovarli? Altri quattro. Vedi che te leghi alle saghe. E non sei una sega. Io sono sagace. No, smettilo, queste cose terrificanti. Sei zitto. Figlio di Chevalier, è vero allora? È vero che è figlio di Chevalier. E allora vedi che... Perino, parlo un attimo con te. Dove ti stai cimentando in questo momento? Allora... Mr. Robot, ok. Mr. Le regole Robot, del diritto perfetto. Le regole del diritto perfetto, che è bellissima. E tra l'altro anche quella è una colonna sonora fantastica. Sì. E adesso c'è Kong. Kong Skull Kong. Island. Chi fai Kong? No! Certo! Sei lui! Scurisco, l'ho visto, scurisco. L'ho visto! L'hai visto? E sì, non mi riconosce visto. Mai! No. Ma dai, beh, è bello mai. Che non vi riconoscete neanche no, per No, ma fratelli. Sai da dove la frego io? Mm. Sui versi e sui fiati. Lì la becco sempre. Quanto poi sono difficili parla, in un film doppiare i fiati. Sì, è vero. Che è veramente difficile. A parte che è faticoso. Fortunatamente nel Signore degli Anelli dividevano in piccoli gruppi da 30 secondi i combattimenti. Perché altrimenti vai in iperventilazione del cervello. E poi caschi per terra. Perché la riconosci nei fiati? Falli un po' i fiati? No, dai, non fa un porno. Come? Dio, non lo so. Però ti posso raccontare che quando ero piccola avevo doppiato il piccolo Buddha e non riuscivo a fare una scena di fiati dove mimavo un leone. Me l'ha fatta Davide. Ah sì? Sì, sì. Ma come sono sti fiati sì, che sì, fai sì, tu sì, caratteristici? Com'è? Che ne so, boh. Prova a fare un momento in cui stai combattendo, stai so. In Kong combatti? No, non combatto, sono una fotografa. Però prova a scappare, prova a scappare. Vai, scappa. Addio. Vai, scappa un attimo, scappa, scappo. Fa sentire i fiati. Aiuto, non lo so. Dai, mi hai messo in una posizione scomoda. Ma no, la posizione scomoda ti avresti chiesto un certo no, tipo poi, di fiati. La cosa buffa è che noi doppiatori dobbiamo correre, ruzzolare per terra, scappare, da fermi senza fa rumore. Ruzzola da fermo, vai. Però tutto stando fermi. Hai capito? Vai, piangi. No. Ma vabbè, non vuoi fare niente. Mi piacerebbe un doppiaggio di rottura per il film di un grande autore, con le voci audio delle strade in diretta, dice questa cosa qui. Poi mi piacerebbe che voi inventaste un dialogo fra... fra Frodo e Aragorn. Ci possiamo inventare. Vabbè. Vai. No, vai tu. Vabbè. Perché tu sei Frodo. Frodo. Perché poi chiamare Frodo sì, è difficilissimo sento. Per uno di Roma, perché anche su una edizione perfetta, Frodo, io ci ho messo un'ora. Sembrare... Frodo! È difficile. Frodo! È pronto. Frodo! Frodo, vieni qui. Eccomi. L'anello. No, è come? Mio. No, Frodo, mio. Dobbiamo consegnare l'anello. Non te lo do. Non lo è voglio. Mio. No, Frodo, ridammi l'anello, ti prego. C'è scritto un anello per trovarli. Sì. Un anello per Geve. Non dici questo, Frodo. Frodo, tu ti sei rincoglionito strada facendo. Sì, non è proprio. È diventato Gollum all'improvviso. Esatto. Eh sì, perché dopo un po' ti collumizzi. Non ti puoi collumizzare, tu sei no, vabbè, Frodo. Vabbè, ok. Frodo. Mi frodolizzo. Frodo, l'anello. Ma sei sicuro? Certo, Frodo, dammi l'anello. Non te lo posso dare. Dammi l'anello, Frodo. Non voglio che tu sparisca. No. Guarda che poi sparisci. No, io voglio sposarti. Te lo dico. No, io voglio quell'anello. Io lo so. Per voler vivere. Io con... lo so, te no, lo tu dico. Non lo sai. Tu dammi quell'anello. È mio. No, no, no, non fare. Perché diventi Gollum all'improvviso? Perché più forte di me. Ma metti là, ma guarda, ma c'è la seconda. No, dopo che stai accanto all'anello, lui sì. Lui ti influenza, certo, ti cambia. Tu lo sai che io sono dei 25 possessori dell'anello, il miglior doppiaggio europeo del Cinema degli Anelli, tu non lo sai questo. Che me l'hanno dato i tolkieniani. Ah sì? No, ce l'ho a casa. Te ce l'hai? Tu non ce l'hai, dice allora Mauro. Io... tu non ce e l'hai. Allora io scoprirò dove abiti. Non lo prenderai mai, mio anello. Prenderlo. Non lo prenderai mai. Restate fermi! Restate fermi! Perché di anello ce n'è solo uno. No, tu non hai detto che era il giorno della sconfitta, io. Ma non è questo il giorno. Che monologo c'ha ma non è questo il giorno! Esatto, non ho detto andiamo così. A casa di Pino e ci spartiamo il bottino. No, perché no, io mi prendo le colonne sonore. È difficile. Io c'ho l'anello, quello originale, con la scritta blu. Non è vero, come stai dicendo? Io ce l'ho l'anello originale, che la scritta è sempre in oro, sta buono, all'interno e all'esterno. Che dici? Ma blu non ce l'hai. Perino, sta buono, sarai un bravissimo doppiatore, ma non c'è niente. Ascoltiamoci prima che va, siamo per finire. Ma come? Oh, de già. Ma amore, un'ora, Però rimanete qui perché rimanete con il prossimo ospite, visto che ama. Ah, vabbè. Le voci, voi ci siete, l'avete riconosciuto, ho fatto sentire un brano per capire chi era e... Dopo tre note l'abbiamo riconosciuto. Eh sì, dopo tre note, una di quelle cose. Noi degli anni Ottanta. Pure te, dopo tre parole uno capisce chi sei. E stacca, cambia canale tranquillamente. Tu hai conosciuto Bertolucci, per cui hai lavorato anche con lui nel Piccolo Buddha. Sì. Il Piccolo Buddha come doppiaggio e poi anni dopo come attrice, vabbè, nel Assedio. Ma tu sei Roo in Winnie the Pooh. Sì. Vergogna. Sì, l'ho fatto tipo. Scherzo. No, dai. Io c'ho anche una canzone, la canzone del cangurotto. Come fa? Nelena, due note che stiamo dando per bucia. Faceva tipo il cangurotto, non me la ricordo più. Io se fossi di voi, c'è il sasso e poi non. Ma i vostri genitori vi saluto, cioè vi ringrazio. No. Beh, devo dire che quando incrocio mamma sotto casa fa un po' finta di vedermi. Poi l'inevitabile, anche perché viviamo uno sopra l'altro, non, esatto, può sfuggire. Non può far finta di niente. Però in effetti. Perini, rimanete qui con me perché stiamo per avvicinare il prossimo ospite. Va bene? Va bene. Ok, a tra pochissimo. Voice Anatomy e questo straordinario cantante e non solo. Prego. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Anatomy. Bentornati signori miei, come promesso, eccoci qua, sono le 16 minuti e 52 secondi, la Perino Family a questo punto è alla mia destra come auditori esterni, ma possono essere presenti in voce, alla mia sinistra invece c'è un bravissimo cantautore. Allora vi racconto chi è senza dirvi il vero, cioè il nome d'arte. Allora lui è Paul Mazzolini. Non sbaglio, vero? Esatto. Nato a Beirut il 18 febbraio del 60. Giustissimo. È un cantante, musicista, arrangiatore, produttore discografico italiano, affermatosi negli anni 80 nel cosiddetto filone musicale della disco Italy, Italo Dance, eccetera, eccetera, che ancora è l'unica cosa che si balla in discoteca comunque, a parte che non si balla, quella ti aliena. Si sballa. Tu sei figlio di un diplomatico friulano per questo e di una cantante statunitense invece, bellissime. E tu hai imparato a suonare la chitarra all'età di 10 anni. E so per farti notare da una bambina, è vero? Eh beh sì, mi ero innamorato di questa ragazza tedesca. Una bambina tedesca che si chiama Sabine. Sabine, nome molto invece italiano, Sabine. Sabine, vabbè, no, Sabine sì in effetti, il ratto delle Sabine, mi ricordo qualcosa molto laziale. Non la mia squadra, dico laziale, nel senso della regione. Me l'hanno detto che sei laziale. Sì, ma è una cosa che poi passa. Perché tu no? No, non è, Paul è internazionale. È giustificato. Se potrà permettere di essere dello United tranquillamente. Adesso del Barcellona, siamo cittadino del mondo. Non dico quello che sono adesso perché. Ah, siamo divisi. Ci sono altri laziali qua? No, solo io. No, anch'io. Alessia Navarra della Roma, tu sei laziale. Sì, per nonno. Nonno Gianfranco Bellini era un vasato della Lazio. Invasato. E mi ha un po'. Grande attore doppiatore Bellini, straordinario. Vabbè, poi abbiamo dato il collegamento con Capuano per tutti i convocati, per i risultati, ma sono tranquillo perché gioco domani. Domani sera, vabbè, siamo tranquilli, giochiamo domani con il Torino. Non so contro chi gioca. Giochiamo, come se andassimo in campo. Paul, magari. Insomma, come Sabine, com'è andata con Sabine? Malissimo. Non mi si è filata per niente, però mi è rimasta la chitarra e da lì ho cominciato a tirar fuori gli accordi. E da lì è stato lo start-up della tua carriera. La musica, ho capito quello che mi dava la musica tutto un tratto. Vedi che può scattare per una cosa magari giocosa, no? A quel punto una cosa ludica, poi scatta il piacere di una vita. Assolutamente, vabbè, diciamo che mia madre pure è stata molto pusher, no? Come si dice? Senti come pronuncia, però come cade sull'inglese. Pusher. Come la carrai per te, quando pronuncia l'inglese. Sono stata l'altro giorno a Manhattan. Quella è una delle parole per noi. Però ma lui mentre la gara si capisce che sta a giocare lì, lui si sente che è naturale tutto questo. Noi lo facciamo per fare i figli. Esatto. E allora Io Paul lo voglio presentare con la canzone che lo rappresenta, anche se, ripeto, poi navigheremo con lui attraverso la sua carriera, che non è soltanto questo grande successo da decine di milioni di copie, di visualizzazioni, perché non solo le copie di prima, ma le visualizzazioni di adesso che contano tanto quanto. Contano tantissimo, soprattutto per la casa discografica che incassa i soldi che non riconosce nulla. Perfetto, per loro conta è sempre tanto. Così, ma infatti quando parlo dei cantanti del periodo storico, quello importante, dove si vendevano decine di milioni di copie di 45 giri, dice sì, ma a me non è arrivato niente perché le edizioni eccetera erano un po' spartite. Beh, quei tempi era più facile bluffare perché non c'era internet, no? Io adesso ho scoperto dopo tanti anni che il disco era uscito anche, per dire, in Brasile, in Argentina. Certo. Stato dappertutto, stato dappertutto, io non avrei mai potuto saperlo, insomma. Eh certo. All'epoca, insomma. Siamo qui per fare una denuncia molto importante, signori, attenzione, la sia in ascolto. Allora, io me lo ascolterei tutto, eh? E poi sta a voi mandare dei messaggi per capire cos'è, ma dopo tre note dovete mandarvi il primo messaggio, altrimenti non vale. Se l'ho riconosciuto io. Sì, sì, e allora pronti, signori? E allora via. Gazebo, no? Sono bastate tre no, quattro note, pam pam pam pam, e subito hai Like Chopin. Questa canzone ha in effetti moltissime parti, eh. Adesso qui magari abbiamo sentito la versione 45 giri, prima abbiamo sentito sul cellulare invece la versione extended, no? Dove c'era quella introduzione, l'introduzione più lunga, arpeggio col questa è l'edit, quella che si dice, sì, questa, per far entrare tutto in 4 minuti o un po' meno, però tu in live questo poi ne fai tanti, poi hai fatto due dischi live molto interessanti davanti, esatto, a una platea internazionale, esatto. C'erano italiani lì, no. Ecco, lì ti doveva far capire che quel disco era stato venduto un po' dappertutto. È incredibile perché veramente ha fatto il giro un po' di tutto il mondo, insomma. Guarda, io vedi, loro sono un'altra generazione, anzi due generazioni precedenti, come sono arrivati bam bam bam bam su, no, sono rimasti estasiati di fronte. Questo era anche un momento storico dove potevi ballare e guardare negli occhi la persona che hai di fronte, no? Riuscivi anche in questi momenti di pausa, senti l'instrumental. Ciao, mi chiamo Pino. E dall'altra... Ciao, Pino. Ciao tesoro. Ma non rispondere tu, ma è possibile? C'è tua sorella. Paul, ma mi dispiace. Che ambiente è qui? No, è ambiente, è amico. Quando ha fatto Frodo non ha capito che è un'altra situazione. Ma è Frodo. Frodo. No. Beh, una versione cantata da Frodo male. Non sarebbe male. Sì, like Chopin com'è. Arvini tutta tu. Elfizzati. No, io la distruggerei, no. Tu non canti? Vorrei imparare assolutamente. Però non sono capace. Insomma, da quel giorno però la carriera inizia proprio tu, sai, vari generi, insomma. Adesso questa è la dance, ti ha portato su una strada, ma tu sei anche un grande interprete, musicista, jazz, non solo, rock, eccetera. Beh, nasco negli anni 70, per cui c'era negli anni 70, come tu ben sai, non sei troppo... No, molto c'era il prog. No, sto lì, cioè, anzi un anno più grande, pensa. Per cui abbiamo vissuto in pieno questo periodo musicale. Bello, incredibile, intenso. Dove si mescolavano i generi, no, dalla musica classica al rock, al jazz, per cui gruppi come Emerson, Lake and Palmer, Mahavishnu Orchestra. Sembra un altro gruppo, Emerson, Lake and Palmer. È un altro gruppo, da Emerson, Lake Frank and Palmer. Zappa, oppure anche i Genesis più romantici. Certo. Cioè c'erano delle cose e veramente... da noi BFM, Banco BFM, del Mondo Scorso. Banco meraviglioso. Guardi, abbiamo persi quasi tutti, esatto. Purtroppo, mamma mia. Ho pianto tanto quando sono andato a Francesco. Francesco Di Giacomo, veramente sì. Incredibile, veramente. Ma una persona strepitosa. Loro, un gruppo, pensa a noi, della premiata ditta, ci fece lui la voce degli Angioletti, Francesco Di Giacomo, si diede per giocare insieme a noi, lui e Paolo Belli, a fare gli Angioletti con la voce. Personaggio incredibile. Bellissimo. Chiaramente questo tipo di musica, se volevi farla, dovevi suonare, imparare a suonare anche altri generi oltre al rock, insomma, dovevi certo. suonare musica classica, jazz, per cui questo mi ha portato ad arricchire un po' il mio bagaglio, insomma, musicale. Poi sono arrivati gli anni 80, le prime batterie elettroniche, la new wave inglese, e di conseguenza si è molto semplificato in realtà il linguaggio, ma è rimasto tutto il bagaglio che avevamo dietro. È tutto, io lo dico sempre, non è la semplicità del brano come Like Chopin, sembra semplice, ma tu devi arrivare a quel brano con un bagaglio alle spalle importante, cioè come tutti gli attori, dici quanto è bravo, sembra che stia vivendo realmente quella storia, no, è proprio la complessità, la semplicità. Esatto. Non è una cosa, arrivi su quella base e costruisci quello, non a fortuna, cioè una base, parlavo anche con Alan Sorrenti qualche tempo fa, uguale come lui, sì, figli delle stelle, d'accordo, ma dietro c'è una preparazione musicale importante. Anche lui è molto progressive negli anni 70, tantissimo. Sì. Ma tu sei arrivato subito in Italia e poi nel sei 74, rimasto, nel 74 sì. sei arrivato in Italia e hai lavorato qui, nel senso hai cominciato, i tuoi studi musicali sono stati sì, qui. Sì, ho finito qua la scuola, facevo la scuola francese a Chateaubriand e poi contemporaneamente... Hai sentito come ha pronunciato Chateaubriand? È musica pure quando parla. Esatto. So, ma anche, non è televisione, anche se stiamo dando una pseudo diretta, anche se la radio è evocativa, la radio è voce, la radio è fantasia. Però visto che abbiamo non più Davide Perino inquadrato, ma abbiamo un bell'uomo come Paul, che prima l'autrice Alessia Navarro si è lasciata. No, lui se lo merita, è giusto che sia così, che sia soltanto una voce, non un corpo. Alessia Navarro prima ha detto assomiglia a Warren Beatty, cioè ci stiamo lasciando un po' andare, no? Anche la Perino, devo dire, che comincia ad annuire con la testa. Insomma, vabbè. Beh, anch'io faccio qualche gaffo ogni tanto, ecco, magari buon bedding per questo. No. È perfetto. Allora, abbiamo cominciato a percorrere la carriera di Paul insieme alla Perinos Family, che rimane qui come testimone oculare. Sì, come altra generazione, come nel Grande Freddo c'è la bambina che è testimone di quello che sta succedendo in quella stanza. No, poi allora, è interessantissimo, perché io... conoscevo certo, le sue musiche, certo, ma non sapevi non l'uomo. Ma infatti voi Sanato mi serve anche a questo, a percorrere all'interno, non con le solite interviste classiche. Allora, quali saranno i tuoi progetti del futuro? Ma anche sti cavoli, no, nel senso, farà delle cose, ma c'è una storia che racconta un successo, che tante volte nasce anche in un minuto e mezzo, certi successi, parlando con alcuni tuoi colleghi, nascono di getto, ma non è a fortuna, uno si sveglia cantante. Prima no. parlavamo di Dolce Vita. Dolce Vita è stata... adesso ci andiamo, ferma, okay. Dobbiamo avere il tempo necessario per raccontarlo. Tra pochissimo con il nostro amico Gazebo, come... No, Gazebo. Ti ringrazio, sono stato ripreso, è giusto, io con l'inglese, come dice quello là, io con il tedesco ci appiccico poco. Tra pochissimo con i nostri amici, poi sei nato, tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy 16:32, famiglia Perino, testimone oculare di questo straordinario personaggio che è Paul Mazzolini, in arte Gazebo, che ci ha divertito e regalato dei momenti bellissimi, sono arrivati dei messaggi bellissimi, ho avuto un figlio con Alex Chopin, che limonate, eccetera eccetera, insomma. Però parlavamo che la musica non è un puro caso, tu nasci in quegli anni pieni, stavamo parlando del prog eccetera, di tutte queste grandi influenze, tu non hai mai smesso di studiarla, non hai mai smesso di amarla, no, non il successo, non inseguivi il successo come si insegue magari adesso con delle scorciatoie di talent, ma inseguivi la musica. Beh, tutti noi passavamo veramente le ore a studiare lo strumento, perché chiaramente non è che sei bravo a suonare uno strumento, sei così, Certo, lo devi studiare in qualche modo. Devi studiare, devi passare anche molte ore. Poi erano, per esempio, jazz, ho studiato armonia jazz, era una cosa fantascientifica, considerando il pop, no? Che sono abbastanza armonicamente più semplici. Certo. Per cui è come scoprire dei nuovi orizzonti ogni volta, arricchirsi ogni volta, no? E poi trattenere dentro il bagaglio di cose che hai imparato, no? E dicevo prima anche la recitazione. Certo, per me uguale, la recitazione è stato io per tu due hai tre cominciato mesi, con la recitazione. Esatto, ho fatto delle cose di teatro d'avanguardia, ti dicevo prima Artaud, piuttosto che i cenci di Artaud, eccetera, tutta teatro d'avanguardia. Sulla vocalizzazione, esatto, no? Ma anche sulla concentrazione, eccetera. Io per esempio ero un pessimo, cioè sono tuttora un pessimo ballerino. Per cui beh, l'unica cosa che fai male, dai. Facendo dance, insomma, è un po' paradossale. Però i tuoi video erano molto eleganti. Sì, infatti io ho basato tutto, non sapendo ballare. Mi ricordo quando feci Disco Ring, il primo 82. Sì. Erano tutti preoccupati in Baby Records perché dicevano: guardate, io non ballo, non mi fate fare gli imagination, sai, questi sì, esatto. Questo non so fare, io al limite posso saltare come un punk, ma più di quello non so fare. Per cui decisi, ebbi questa idea di recitare, siccome il Masterpiece è stato il tuo primo successo. Esatto, la narrazione un po' di Sunset Boulevard, no? Di Billy Wilder con Gloria Swanson, eccetera. Che bello di questo sentirmi nominare per come si chiamano realmente. Esatto. Gloria Swanson e Billy Wilder. Ok, io traduco perché siamo in Italia. Viale del Tramonto. Viale del Tramonto, esatto. Sunset Boulevard, certo. Per cui era un po' la storia di questa attrice che non riesce ad accettare il fatto di invecchiare, no? Eccetera, che recita il proprio capolavoro. Lavoro, il suo masterpiece. Recitando la propria morte in questa favolosa festa hollywoodiana. Bello, è un'intuizione pazzesca, perché guarda come quello che è successo a Bowie l'anno scorso. Cioè lui ha fatto il suo masterpiece. Esatto, l'ultimo, Stella. Ha fatto il disco, il giorno dopo è morto. Lazarus. Ha concepito il suo capolavoro. Non riesco a sentirlo, Darkstar, perché lo vedo, lo sento la sua sofferenza. E il suo testamento, è pazzesco quel pezzo. Sì. Abbiamo incredibilmente, perché normalmente mandano molti messaggi ma non telefonano, qui è successo qualcosa di incredibile. Pronto? Si stanno limonando, sì. No? Sì, non esatto. Lo so. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Pino? Sì. Barbara. Barbara, dimmi, per cosa chiami Barbara? Chiamo per la persona che sta accanto a te. Sì, ce ne sono due prima, vai, no, tu parli di Paul, di Casipo. I like Chopin. Allora no, devo dire che quella è una canzone per me. Beh, giovane, quanti anni hai, Barbara? Scusami. 33. Per cui un'altra, pure lei, la vostra generazione. Non c'era quando non c'era, no, quando è uscito il disco non c'era Barbara. Però no, quella canzone io me la ricordo bene perché andavo in villeggiatura con i miei genitori e mettevamo dietro lo stereo io e mia sorella. Mm-hmm. Di 9 anni più grandi di me, e ascoltavamo sempre questa canzone, quindi per me è ti ricordo una della delle tua canzoni infanzia. Più belle del mondo. Sì, no, ma per me è proprio una delle canzoni più belle che ci sono, in assoluto. Ma che bella questa cosa, dai. Bellissimo, è bello. Sì. Poi il ricordo della famiglia, che è una cosa ancora. Mettile sottofondo per Barbara un'altra volta, so che l'abbiamo già messa, però rimette una. Te la faccio sentire anche un attimo con Paul che ci canta sopra, pezzettino però, poco, solo l'inizio. Questo è prima questa che... è la versione estesa, però. Esatto. Prima che arriva la voce. C'è tutto un crescendo. Allora. Beh, durava 7 minuti e mezzo. Beh, non potevo mandarla per radio. Dai prima nostri che... ricordi di Progressive, appunto. Esatto. I pezzi... era tutta la facciata. Esatto. La prima facciata era il racconto di qualcosa. Esatto. E così era. Esatto. Pensa che entrò. Eccolo però. Questo qui è. I Perino sono assuefatti intorno a una cuffia. Perché non ne avete due? No. Me l'hanno rubata. L'hanno rubata. No, ho capito. Ah, c'è Mauro che sta facendo una diretta Facebook. Ecco. That piano. Per te, Barbara. So delightful, unusual. That classic sensation, sentimental confusion. Used to say. Tutti insieme. I like Chopin. Beh, abbiamo, è diventato un radio popolare, io li amo. È bellissimo, oh, sognavo da tempo questo. Grazie Barbara della tua bella testimonianza. Me l'hai fatto un regalo meraviglioso, grazie. Ma ce l'hai fatto tu a noi. Ciao, Barbara, grazie. Un bacio a tutti, grazie. Che ciao. Bella cosa, grazie Paul. No, questo è bello, significa giocare. Stupendo. Giocare con la tua vita. Giocare. Poi è buffo perché non cantando sopra la voce registrata, ormai la canto anche in un modo diverso, no? Però mi sono ritrovato provato un attimino. Ti sei fatto un controcoro a te stesso, niente esatto. male. È come ridoppiare se stessi, esatto, che è molto più difficile. Parlavamo prima di un altro grande successo che è venuto sia a priori ma a posteriori. Ma perché? Cioè, Dolce Vita, che è un brano, anche quello, che ha avuto un successo non indifferente, però tu l'hai scritto. Io ebbi questa idea perché Masterpiece parlava di Hollywood, eccetera. Esatto. E pensavo, ma siamo a Roma, qui c'è Cinecittà, ci sono i grandissimi Fellini, i nostri grandi maestri del cinema. Certo, Dolce Vita. La Dolce Vita. Così lo presenti quando fai i live, nel tuo disco live lo presenti così, sì, la gente... Sì. Urla, ma io quando racconto tu parli di Mastroianni. Sempre per i nostri raccordi, un po' i nostri trascorsi di progressive, sì. No? Quando c'era Peter Gabriel che ti raccontava le storie dei testi, no? E a me piace molto perché ogni mio testo ha una sua storia, non sono semplicemente così delle parole messe lì. Lo stesso Alec Chopin parla di questo amore pazzesco tra Frédéric Chopin e George Sand, questa scrittrice che era talmente avanti, sì, che si era data un nome d'arte maschile, George Sand. Sì. Fumava il sigaro, era prerompente, una donna di oggi fondamentalmente. In anticipo sui tempi, nettamente. E immaginavo questi due che camminavano in questo parco parigino come un quadro di Renoir, no? Un po' impressionista. Hai capito? Non è Renoir. Non è Renoir. Non è come pensate voi. Lo scopro adesso. Scusa Paul, com'è? Come si chiama sto pittore? Renoir. Hai capito? Ma adesso lui non può parlare e dire nomi di cose, esatto, di persone, perché ma noi veri. Siamo estasiati da quello. Questo che... Questo è Voice Anatomy e lui sarà il co-conduttore insieme a me della prossima settimana. Ma quando sono all'estero, poi quando parlo di italiani uso... Perché poi gli americani tu puoi immaginare come storpiano. Certo. Io mi chiamo Einsegnau in America. Insegno è Einsegnau. Io ho detto vabbè. Einsegnau. Comunque Einsegnau. È bellissima questa storia di Joe Sand. Esatto, allora mi sono immaginato. Poi, vabbè, io sono un grande amante di Baudelaire. Poi c'è una poesia di Baudelaire che si chiama Le Correspondance. La vuoi leggere? Te la faccio stampare immediatamente. Vai, sì, perché... Mi trovate la corrispondenza in italiano? La corrispondenza sarà, ma dei le corrispondenze. Le corrispondenze. Perché parla del... Sta sulle fleur du mal. Bravissimo. Lo so, l'ho pronunciato una merda, però fleur du mal. Una merda. Ti ringrazio. Alessia lì sta sull'iperuranio sentendolo parlare francese. Io lì sto ancora pensando a Renoir. No, non è Renoir. Non è Renoir. Non è Renoir. No, vabbè. Te puoi anche innamorare di un uomo così, eh? E certo. Che non è manco la brutta via, Paul. Ma che stai scritto? Qualcosa è rimasto. Guarda, in questo momento Alessia Navarro si sente come Frida Kahlo nel suo soggiorno parigino. Pensa un po' di te. Mentre trovate questo, però, Dolce Vita. Ecco, torniamo a Dolce Vita. Sì. Siccome a quei tempi c'era anche l'idea di usare dei termini molto semplici, quasi da slogan, come titolo di canzoni, no? Per cui partiva da quello quasi, no? Masterpiece era già un film, già un bel titolo, certo. Alec Chopin, idem, perché dice, ma perché? Che vuol dire Alec Chopin, no? Allora pensai, Dolce Vita è come Coca-Cola, è come, non so, sì, no? Sì, è un marchio. È un marchio, è vero, è un marchio. E pensavo, chiamai Pierluigi Giombini, che era quello con cui scrivevo i pezzi, e gli dissi, guarda, dobbiamo fare un pezzo che si chiama Dolce Vita. E quello rimase 5 secondi di silenzio. Meraviglioso, c'è un giro di basso, vieni a casa mia. C'è un giro di basso. Ce l'ho pronto, ce l'ho pronto. Sì, era che mettilo un attimo, eccolo. Questa è la mia versione. Questa che... è la tua versione, ma io quella voglio sentire. Poi mi racconti la storia. Sentiamola un attimo. Ah, in italiano? Ah, la volevi in francese? Beh, pensavo... Bello, in francese, subito. Trovala in francese e poi la leggo io tradotta in italiano. Esatto. Sì. Sentite Dolce Vita qual è. Bel giro di basso. I Perino stanno godendo. Ma questo è un flash temporale pazzesco. Tra... Questa sì, l'hai scritta tu, ma è uscita prima, non prima che tu la scrivessi, è uscita senza la tua voce la prima Dolce sì, Vita. Sì, perché... Why? Beh, diciamo che con il produttore del disco ci fu un malinteso sul significato di questa canzone, nel senso che per lui era un buon brano da album, mentre per noi insomma era un hit, una title track questa, esatto. Proprio. Però avevamo già Like Chopin, avevamo già Masterpiece in questo disco, poi un altro si chiama Lunatic, un altro pezzo. Sì. E allora decidemmo di non sacrificarlo, anche se a me mi dispiaceva un po', onestamente. Potrebbe essere un nuovo singolo. Esatto. Decidemmo di farlo cantare a un amico di, appunto, di Pierluigi, che lavorava in un ristorante di fronte. Ma che come di fronte a un ristorante di fronte? No, per inglese? No, che diceva di aver vissuto in Inghilterra per tanto tempo. Non è invece, vero. Invece poi scoprì quando dovette cantare che non era proprio così. Infatti è rimasto l'inciso "It's our last night together with our love". No. Che storia! We speak English like that. Trasteverino proprio di, no? È proprio è tipo come sa pronunciare proprio. Però la cosa più incredibile è lì che, insomma, dopo un po' ci pensi, Dolce Vita è andato, credo, al numero 2 in Inghilterra, il che ti fa capire che non significa nulla, no? Cioè, ma questo, però, io, per quanto riguarda l'immaginario collettivo, è sempre stata tua. Cioè, beh, sì, sì, è vero che l'ha cantato lui prima, ma stessi, era tua. Avevamo era i stessi comunque. Strumenti, stesso arrangiatore, stesso studio. Tua, la scritta tu. Sì, sì. Beh, sì. Vabbè, però, insomma, dai, va bene, è andata bene comunque. È andata bene. Forse così. Magari, non so, ecco, lui che lavoro fa adesso. Non so se no, lui campa con Dolce Vita. Campa con Dolce Vita. Diciamo che non ha altro, per cui fa Dolce Vita, poi magari ti fa l'italiano di Toto Cutugno, fa anche Alex Chopin. Ti ho capito. Fa le canzoni, fa le cover, poi fa Dolce Vita. Ma che alias questo? È una fiction. No, però è un personaggio anche lui. La cosa forte è che lui è molto romano, per cui quando fa l'intervista, allora. Ho cantato Dolce Vita, ho fatto Dolce Vita prima in Inghilterra, che poi non è mai vero, perché è secondo. È proprio romano, non c'è niente da fare, però è simpatico. Sì, poi vabbè. Ecco, lui c'è, fallo essere pure antipatico, no, per carità, era forte perché voleva coinvolgermi in Scientology, no? Lui segue quella, lui praticamente lui Tom Cruise tutti suoi, no, tutti che suoi... Tom Cruise ecco, esatto. Yeah. Questa la sapevo. Lui praticamente ha buttato i suoi primi guadagni, spero che dopo non si sia svegliato, tutti i suoi primi guadagni in dischi, in libri di Ron Hubbard, no? Questo, certo, questo grande scrittore, perché di scrittore si tratta. Esatto. Non vogliamo entrare nel merito, perché, insomma, sono cose delicate, qui si parla di religione, anche se, vabbè, ma questa è un'altra storia, un'altra trasmissione, diciamo, a Cruciani di parlare di Scientology. Restate con noi ancora, perché abbiamo ancora un blocco insieme a Paul, che ci leggerà in francese la correspondance. Devo rivedermela, perché ci riguarda, saranno 40 anni che... Esatto, va bene. E restate con noi, e poi sentiamo anche Capuano, alla fine anche Capuano è di questa generazione. A tra pochissimo. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy per gli ultimi 10-12 minuti insieme in compagnia di Paul Mazzolini, Mazzolini, quello di Fiori, insomma. Papà era friulano, mamma è italiana, era oppure no, cantante statunitense, è americana, però di origini invece austro-ungariche, perché metà cecoslovacca. Quante lingue parli, Paul? 5. Hai capito. Più lo spagnolo, che però non considero, insomma. No, è vero, anch'io 7 lingue, ma non considero il francese, l'inglese, il tedesco, il portoghese, non li considero. Sennò no, lascia stare. Te la senti di leggere questa poesia? Sì, però dobbiamo dire che nella pausa non l'abbiamo solo fatto chiacchierare, quindi non ho potuto leggere. Esatto. Sì, ma tanto è in francese. Tranquillo. Di qualsiasi cosa. Speriamo che nessun francese ci stia ma Radio 24 la conosci, Radio 24 è multietnica, è mitteleuropea. Ed è molto attenta. La musica Satin, mettiamo Satin. Satin. Satin, no, no. Ti chiedo Satin. Scusa un po'. Oh. Satin. Vado? Vai. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies comme l'ambre, le musc, le banjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Beh, se andavamo in onda se andavamo in onda dopo mezzanotte, ragazzi, forse chi stava. Erano altri figli, No, non credo. Secondo me si sarebbero staccati dal marito vicino e telefonavano. Esatto. Telefonavano. Questa mi ricordo un po' i tempi della Radio Libera. Ti ricordi gli anni 70? Beh, mi ricordo, purtroppo mi ricordo perfettamente, amico mio. E io facevo trasmissione su una radio che faceva rock. Io di notte andavo lì perché loro, in cambio del mio lavoro, tra virgolette, mi davano dei nastri. Bobine, certo. Che usavo a casa per fare i provini, eccetera. Per cui facevo la notte, spesso mi addormentavo chiaramente. Il disco faceva croc, croc. È vero, il disco finiva la sua corsa. E ogni tanto facevo delle chiacchiere, così parlavo di questi gruppi, dei Genesis, eccetera. E ogni tanto chiamavano ai 4 di mattina una voce femminile. Cioè, certo. Senti, ma io ti devo conoscere. Esatto. Beh, devo dire che insomma, io insomma, sono. Però è un bell'uomo. Beh, lo dico da maschio, non lo che dico poi... anch'io, sì, sì. Per cui c'è tutto. Quello che va detto va detto. Io produco, io mi riproduco. Io faccio teatro, per esempio, a maggio sarò al Teatro Olimpico. Non voglio fare pubblicità perché sono 6 repliche già esaurite, perché sono 9.000 persone che saranno al Teatro Olimpico di Roma. E questo spettacolo, tu sarai alla prima, tu salirai su quel palco perché c'è anche un'orchestra piccola, ma c'è. Con piacere. E tu ci sarai, e da lì quelle 1500 persone che saranno variopinte, di varie età, e da lì facciamo una cosa. Con grande piacere. Io voglio fare il tuo produttore prima qui. Dai, ci sta. Pensa, è bella avventura, ma anche con altri colleghi, magari di adesso, eccetera. Con grande piacere. Io tanto sono arrivato a una fascia di età in cui posso anche con molta leggerezza affrontare. Una leggerezza calviniana, non superficiale, capisci, Perino? Questa leggerezza è calviniana, non so, tu lui non lo sa, non l'ha letto, non ne sa queste cose, capito? Vabbè, insomma. Paul è stata sono giovani, dai, bisogna. Però giovani, guarda, affascinati. Sembra che sappia, Davide. Annuisco, sembra. Sì, certo. Stai facendo campo col microfono. Oh. Cazzo. Ecco, non si può dire, siamo sdoganati con qualche parolaccia dall'amico Cruciani, tranquillo. Anche se è un orario tranquillo. Senti, Paul, io so che hai fatto tantissime cose. Quella di Like Live, 30 anni di carriera, è bellissimo quel doppio CD. È un, sì, un disco dove ho preso una band e ho fatto un miscuglio di tutte le cose, sia del passato, degli anni 80, che dell'ultimo disco che feci all'epoca. Ed è stato molto bello perché la gente non è abituata a vedermi con una band, no? Magari mi identificano più in discoteca, sì, eccetera. Però fai la tua bella figura, guarda, amico mio. Sei pure meglio adesso del video che ho visto da Rex Chopin. Invece, persona che non fa bella figura, ci colleghiamo in questo momento con Milano, che è Capuano, gestore e detentore, eccomi, di questa trasmissione, eccomi, tutti eccomi, convocati di Gran Successo, e parla di calcio e non solo, vabbè, di sport. Capuano, hai visto che c'ho in studio, a parte la famiglia Perino giovane e Gagliardi doppiatori, ma il grande Paul, il grande Gazebo, è Like Chopin, l'hai ballato. Beato te, certo, come no, scherzi. Con i tuoi movimenti d'anca, immagino, caro il mio giornalista. Allora, perché tu non mi hai visto ballare. È meglio. Capuano, va bene così. So che sei un grande giornalista e questo ci basta a tutti. Ma limonavi anche tu con le sue musiche in sottofondo? Ah, ma certo. Con Capuano ti rivolgi in questa maniera. Perino, guarda, è il capo di giornalisti del mondo, tu limonavi. Ma sono cose sue. Ma sta facendo lo sbruffone perché noi ce l'abbiamo qui. Ma anche i giornalisti vivono. Ah, certo, avete anche voi... i giornalisti limonano. Limonano è più bello. È un passato remoto. Senti, come sono i risultati? So che quando mi collego con te ormai si vince sempre, anche se giochiamo il giorno dopo, sì, il giorno prima. Giocate domani. Però. Domani. Domani 20:45 Lazio-Torino, quindi bella. Il collegamento è finito. Ciao. Esatto. No, lo sai, che stupido, dai. Come sono andati? Guarda, due partite allora sono già finite. L'ora di pranzo, il Bologna ha vinto 1-0, gol di destro. All'inizio della ripresa il Bologna non vinceva da 7 partite. Ed è tornato alla vittoria. Poi c'è stata una partita davvero equilibrata. Questo pomeriggio Inter-Atalanta a San Siro è già finita 7-1. Come 7-1? 7-1 per l'Inter. Sono sì. 5-1 nel primo tempo. Sì, 7-1 per l'Inter. Tripletta di Cardi, doppietta di Banega, tutto nei primi 34 minuti. Ma è legale. Poi Freuler. Ma è legale. Come 7-1? Io non so niente che ogni volta. Ma vabbè. Guarda, è la peggior sconfitta dell'Atalanta in trasferta a San Siro. Quella precedente era un 7-2 del marzo 1990. Sì. Ci fu anche un 7-2. Sì, ma l'Atalanta di quest'anno non mi aspettavo. No, infatti è stato un crollo abbastanza. Sarà abbastanza strano da spiegare. Comunque 7-1, tripletta di Cardi, tripletta di Banega, gol di Gagliardini, gol dell'ex. E che Inter non è risultato quarto perché era già finito. Aspetta, ha segnato il sesto gol, sì. Quarto in classifica, aspettando ovviamente domani il risultato. L'altra partita che è già finita è Napoli-Crotone 3-0, doppietta di Insigne e gol di Mertens. Poi la Fiorentina è appena passata in vantaggio, siamo al secondo minuto di recupero, ha segnato Kalinic, Fiorentina 1-0 Cagliari. Partita che era complicatissima per la Fiorentina, aveva colpito anche un palo Borriello, è arrivato adesso il gol di Kalinic. Praticamente così. Finito Chievo-Empoli, si gioca ancora ma siamo 4-0 per il Chievo, inglese Pellissier, Birsa e Cesar, e poi praticamente finito anche Pescara-Udinese 3-1 per l'Udinese, Zapata-Jankto e Muntari. Insomma Zeman non è riuscito a replicare l'inizio, lo startup positivo che ha avuto, è stato soltanto un fuoco di paglia, insomma. Questa sera Palermo-Roma 20:45. Stasera bisogna vederla con grande attenzione perché la Roma sta in questo momento particolare, però vabbè, non voglio parlare io perché sembra che sono laziale, non sono così, non è così, ti parlo oggettivamente da giornalista, santa miseria, siete veramente prevenuti con me. Pollo non ci ha detto di che squadra è, ma posso immaginarlo. Vabbè. Beh, tu hai parlato tre secondi fa. Sei cresciuto a Roma, insomma. Roma. Della Roma, della Roma. Va bene, però non mi affascinate. Io accetto tutto. Sarò il suo produttore quanto esatto, prima, per cui dobbiamo accettare. Si vive in una società multilaziale, come si dice ormai da te. Caro amico mio, buona domenica, buona trasmissione, ti abbraccio e grazie per sempre della tua simpatia e grande ironia, caro Capuano. Alla prossima, ciao, bello mio. Ebbene signori, siamo arrivati alla fine, però no, Paul è stata una bellissima, bellissima scoperta, non avevo dubbi, perché ti conosco, perché so qual è la tua storia, soprattutto voi gli autori quando abbiamo approfondito la tua vita eccetera eccetera, avevamo scoperto veramente delle cose affascinanti. Tornerai, perché devi tornare, vivi qui, vivi in questa città o vivi fuori? Sì. Sei qui a Roma ormai? Sono romano e romanista. Benissimo, ma guardavo fisso negli occhi quando mi ha detto, però ti sto simpatico un po', vero? Sì, ma io sono accerchiato da amici laziali, te l'ho detto, amici, mio fratello laziale. Oh, allora io il mio ortopedico è il medico della Lazio. Lovati? Chi è? Lovati l'ortopedico, sì, anche Lovati, Stefano. No, l'osteopata. Hai capito? Per cui sta attento. Tuo fratello è l'osteopata da Lazio. Se tu infatti, li vedo e quando mi fanno. Ci abbiamo un paio di derby ancora per divertirci. A livello goliardico, ovviamente parlo. Caro Perinos Family, grazie davvero, grazie della vostra simpatia, professionalità e grazie davvero. Grazie di averci invitato e fatto rimanere anche con Paul. Esatto. Ma ho visto cinguettavamo come due uccellini in preda alla voglia, dicono. Sì, perché prima parlavamo del fatto che eravamo troppo piccoli per andare in discoteca e c'era questa pista di pattinaggio accanto alla discoteca. Sì. Non ci facevano andare, ma noi dalla pista di pattinaggio sentivamo le loro canzoni. Sì. Allora chiudiamo con Like Chopin, dai. Chiudiamo con questa, salutiamo con questa di base che mi sembra un leitmotiv, non voglio dire di leitmotiv, non si pronuncia così, come si pronuncia? No, sei fortunato perché il tedesco non lo parlo. Il tedesco leitmotiv. Leitmotiv, sì. Ah sì, di croissant. Oddio ragazzi, voglio andare al bar. Signori, grazie, a domenica prossima con Voice Anatomy, grazie per volerci così bene. Ciao. Sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days.